Grey's Anatomy, viaggio nei mondi della voce, di Pino Insegno. Signore e signori, benvenuti, bentornati. È domenica pomeriggio, sono le 14.33. Questa è la nona puntata di Voice Anatomy. Cominciamo così, nel bianco più totale, nel silenzio più totale, perché oggi cambiamo direzione. Oggi parleremo sì di musica, sì di voce nella musica, ma in studio, come nei grandi studi meravigliosi, orchestrali e di diretta, c'è un gruppo di vocalist straordinario. Parliamo di voce e magari averli sempre al mio fianco. Loro sono i Barahona, che dopo conosceremo meglio, ma hanno preparato un jingle live. Tutte le cose che sentirete saranno assolutamente live, e allora vi prego di farmi questo bellissimo jingle di Voice Anatomy. Pronti? Eccoci. Sembra un disco, non è, ma sono qui. Ci siamo. Eccoli qua, dopo li conosceremo uno per uno, ma vicino a me c'è un grande artista di eccezione, voi siete ormai abituati, che qui al mio fianco ogni domenica si stanno alternando degli attori doppiatori straordinari. Lui è parecchio raccomandato qui, perché visto che è la voce ufficiale di Radio 24, non è stato complicato dirgli dov'era l'indirizzo. Lui dorme qui, vive qui. Leggo per la prima volta nella biopic che questo amico è nato in Svizzera il 19 febbraio del 65, ma io ho sempre saputo che abruzzese, per cui è originario abruzzese, non puoi parlare ancora. Ha prestato la sua voce e a molti attori importantissimi come Bradley Cooper, Rain Steger, Christian Bale, Evan McGregor, Johnny Depp, eccetera eccetera. Vogliamo sentirci un piccolo contributo del nostro amico e poi lo presentiamo in tutta la sua bellezza? Prego. Mi vuole lasciare spazio, c'è il valore. Ho un'altra lettera, l'ultima, va bene? Ma che cazzo ci hai preso? Dagliela tu stesso. Fammi parlare. Non dovrai mai più rivedermi se la leggi, d'accordo? Che grande puttana. Sì, tu leggila. Cara Tiffany, so che hai scritto tu la lettera. Il solo modo di assecondare pazzia la mia... Pazzia era fare qualcosa di pazzo tu stessa. Grazie. Io ti amo. Dalle mie labbra, oh biasimo dolcemente sottolineato, restituiscimelo. Non è proprio così, è più... Faccio io. E le mie labbra hanno il peccato che hanno tolto. Dalle mie labbra, oh biasimo dolcemente sottolineato, restituiscimelo. Baci bene, molto. Bene, Will. È una fortuna che tu sia qui. Perché non scrivo io il resto della tua opera mentre tu fai vedere? Continuate ora alla nutrice. Dove sta Ral? Il suo compito sarà di catturare John Dillinger. È all'altezza, Purvis. Senz'altro. Diamo la caccia ad assassini incalliti. Ah, l'uomo che ha ucciso Pretty Boy Floyd. Tu lascerai la cella di un carcere solo quando noi ti tireremo fuori per giustiziarti. Questo poi lo vedremo. E invece lo vedremo subito, sappiamo subito, scopriamo subito chi è. Lui è Christian Jansante. Applauso, c'è la possibilità. Eccolo, ce l'abbiamo addirittura anche in playback. È una domenica particolare, dicevo, perché fra Valentino Rossi avremo anche una finestrella con l'amico Capuano e poi il derby, che io preferisco in effetti essere qui e saperlo solo alla fine, in effetti. Però va bene, saluto dall'altra parte del vetro l'amico Alessandro Gaia, i nostri autori, Alessio Navarro, l'amico Damiano Berti e quanti altri cognomi, eccetera. E vi ricordo i numeri di telefono, il numero verde per entrare in diretta con noi, 824 0024 per gli sms, 349-238-6666. Come al solito avremo anche un provinante che si è gettato nella fossa della nostra voice box. Vi ricordo anche quello, il numero 828-1212, dove voi laici o professionisti potete provare a recitare un pezzo. Noi vi convocheremo qui in studio e magari alla fine ci sarà anche la possibilità di partecipare a qualcosa di importante. Bene, allora parlavamo con Christian Jansante, la voce ufficiale di Radio 24. Me li fai Voice Anatomy? Hai visto loro come me l'hanno fatta bene la sigla? Ma io infatti metterei la loro, togli la mia, che sono uguali. Sì, no, mi hanno imposto, me l'hanno detto, ma è sicuro. Sono raccomandato, hai ragione. Esatto. Pensa che allora, sono voce di questa radio da 10 anni ed è la prima volta che mi posso sedere a questi microfoni senza fare una sigla. C'è stato un flash qualche anno fa con Cruciani, ero venuto per fare una sigla. Capirai. Mi ha fatto dire due cose. Oggi però mi hai fatto mettere qui che questo invece è il posto di Parenzo, cioè io avrei preferito quello qua, che invece di Giuseppe Cruciani, che è tra l'altro uno dei miei conduttori preferiti, dice sempre cose che mi trovano d'accordo. Se poi tu anche sei uno che va controcorrente spesso e volentieri, ma più che altro io tratto male le persone che non hanno niente da dire e lui fa così e io sono d'accordo con lui. Scusate, fatemi trovare alcuni argomenti, altrimenti rischio di essere messo addosso al muro da questo punto. I contributi che abbiamo sentito prima era Bradley Cooper del lato positivo, dove lui non vinse l'Oscar ma lo meritava molto più della Lawrence sicuramente, secondo me. Joseph Fiennes, il Shakespeare in Love, molti anni fa, sì, tanti anni fa. Tu non ami questo film, ho saputo, lo ami? È bello. Ma no, cioè, guarda, ma ti spiego, non è vero, non lo amo. E poi Christian Bale nel Nemico Pubblico, sì. Dunque Shakespeare in Love sta a me come questo piccolo grande amore sta a Baglioni, cioè uno non ne può più, capito? Ho capito, di calta sempre sta cazzo, quindi basta, fa parte del mio passato. A ognuno di noi serve una cosa per essere poi riconosciuti. Noi per mille anni con la prima ditta quando facevamo Beautiful, io facevo So troppo figo Ridge, ma in quel caso sono diventato figo anche perché la gente non capiva, c'era dell'ironia molto probabilmente. Sono diventato anche piacevole, ma a parte questo, insomma, la radio comunque è stato, è il tuo amore vero. Beh, guarda, io ho cominciato a 13 anni. Mi ricordo che entrai in questa radio di Chieti Scalo, che si chiamava Radio Gamma, e andai per visitarla. In realtà già c'era un certo interesse da parte mia. E la cosa che dico spesso, appena entrato, l'odore dei cartoni delle uova che c'erano sulle pareti. Le uova servono per isolare, esatto, perché la gente pensava che stavi in agriturismo a fare la radio. All'epoca c'erano pochi soldi, si metteva i cartoni delle uova, i vinili e cose. Io ho detto: da questa stanza non uscirò più, la mia vita è qui dentro. E se sei condannato. Sto qua, Sì, stai qua e non a 50 qua. Anni sto ancora qua. Stai qua, ma stai dentro anche una storia di doppiaggio. Da lì come si è fatto largo la strada per il mondo del doppiaggio, che poi è molto vicino al mondo della radio. Beh, la voce è quello che noi raccontiamo ogni domenica. Si è fatta largo grazie a un signore che si chiama Elia Iezzi, direttore di una televisione di Pescara dove io ho lavorato per diversi anni, che aveva portato qualche anno prima a Roma Roberto Pedicini, mi parlava sempre di doppiatori, eccetera, che lui stesso aveva fatto doppiaggio. Io venivo da una scuola di teatro di Pescara, per un anno avevo fatto un laboratorio straordinario, perché in quel laboratorio ho imparato tantissime cose, cioè tutto quello che non bisognava fare nella recitazione. tutti impostati, filtri retorici, non è male. Io andavo lì e guardo, no, tu non ti devi avvicinare a me. Io pensavo, ma a me non mi emozionano questi, ma non sono un po' finti? E mi dice quella a fianco, ma stai zitto, sono straordinari, ecco. Invece poi, una volta approdato a Roma, ho scoperto che la verità era altrove, non dentro quel laboratorio, quindi in realtà mi è servito al contrario. Però una volta solo ti sei tolto tutto quello che non serviva, cioè, esatto, è come se incontri una donna e tutto quello che non rappresenta l'amore l'hai trovato in quella, perché tutto il resto è tutto e più. Me lo fate uno stacchetto di 20 secondi con le vostre voci straordinarie, visto che oggi poi il tema della puntata è proprio il viaggio attraverso la musica. Parliamo di musica e tutto ciò che c'è dietro la parola cantata, e come sempre lo faremo attraverso il mezzo di comunicazione che abbiamo, che è più fenomeno, è il più grande al mondo, che è la voce. Allora ti facciamo un stacchetto Vito brevissimo. Vito Caporale. Sì, Vito Barahona, poi c'è Delio Caporale, sì. Eleonora Tosto e Daphne Nisi. Ti facciamo un contrappunto. Il contrappunto è quando le voci fanno cose diverse ma stanno insieme. Mamma mia, okay? Hai capito, Cristian? È un brano che abbiamo avuto il piacere di fare tanti anni fa col grande Renato Carosone, proprio con lui in una trasmissione Rai, e ce lo portiamo dietro come un portafortuna. Vai. Come il nostro Shakespeare in Love. Vai. Il loro Shakespeare in Love, sì, vai. Saracino, bello bagnone, c'erano mezzo, bello robot. Saracino, sbirisco, come ti fanno murare? Saracino, dille, c'è un po' di caro. Saracino, sbirisco, come ti fanno murare? Saracino, bello bagnone, c'erano mezzo, bello robot. Saracino, sbirisco, come ti fanno murare? Saracino, dille, c'è un po' di caro. Saracino, come ti fanno murare? Ecco, capito? Allora abbiamo al telefono già adesso? No, per dopo. Lo facciamo introdurre adesso e poi c'è un minuto di pubblicità. Ah. Però introduciamolo adesso, perché qui parliamo, come abbiamo detto, di musica, di parole. Sì. Tu sei un grande fan, ma sì, come lo sono anch'io e tanti altri, dei Pooh. Sì, Pooh, poi, da quando ero proprio ragazzino. Eh sì, e poi hai fatto un'operazione con loro. Abbiamo fatto, perché abbiamo poi... Fatto. Abbiamo fatto, c'eri anche tu, come no? C'era anche abbiamo io, fatto. E al telefono c'è l'amico di tutti noi, perché poi una voce... voce meravigliosa, è Robby Facchinetti. L'amico di tutti voi, ha detto giusto. Ciao Pino, ciao Cristiana. Ciao, buongiorno maestro. Tu ormai c'hai Cristian che è la tua cambiale, Robby, lo sai perfettamente. No, ormai è dei nostri, fa parte della famiglia. Per cui nella reunion... Nella... Non prendi gli assegni familiari, sì. Questo, capito? Per cui nella reunion c'è anche lui, insomma, torna anche lui nei pool. Sì, assolutamente, perché non può mancare. Tra l'altro, noi abbiamo scoperto lui 2 anni fa in occasione di questo progetto straordinario che li vede veramente protagonisti. E grazie a voi, guarda, questo lo dico sempre e lo voglio ridire ora, abbiamo capito che le musiche, i brani di musica pop, i testi in questo caso, possono benissimo stare in piedi anche senza la porta della musica, perché il come, no, come in tutte le cose, è veramente molto molto importante. La vostra recitazione, il tono avete usato, è come il vostro recitare queste poesie, perché io le chiamerei poesie, sono di Valerio poesie. Negrini, veramente avete fatto innanzitutto un grande regalo a Valerio, che ovunque lui sia sicuramente ne avrà goduto. Ringraziare e continuerà a ringraziarvi. Però questo è la grande cosa che ho scoperto, che abbiamo scoperto tutti. Robby, senti, puoi rimanere un minuto con noi e ti riprendiamo fra un minuto e mezzo? Puoi, per favore? Era questa mattina che ho il telefono in mano e che aspettavo la nostra telefonata. Va bene, Dio delle città, aspettami là, non ti muovere. Mi raccomando, grazie. Anche voi, Voice Anatomy è appena cominciata. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presento... Voice Anatomy. Voice Anatomy. Voice Anatomy. Voice Anatomy. Hai capito dal vivo cosa succede qui, caro Robby Facchinetti? Con gli capito, amici Baron. Vabbè, quando questi progetti vengono così portati avanti da delle persone grandi come voi, è chiaro che non possono che produrre magia, non potete che produrre cose importanti e belle. Tra l'altro, io solo dico io, non lo dite voi, che questo vostro spazio, questa vostra trasmissione è la più seguita di Radio 24. Io non posso che farmi è molto seguita, poi stanno i momenti che è molto più seguita, altri, insomma. Radio 24, devo dire che poi è in sella veramente a un ascolto importante, di persone importanti, e poi è una radio che ha un grande spessore. Poi questa domenica, sotto l'egida del nostro direttore Barisoni, è cambiata, è proprio una domenica insieme dappertutto, con tanti argomenti. C'è anche l'amico, il collega Ruggeri prima di me, no? Però no, certo, abbiamo certo. Qui l'amico Ian Sante, che è emozionatissimo a sentirti, no, Robby. Quando è la prima? No, smettila. Robby, quando è la prima data? Quando è la prima data della reunion? La prima data della reunion in quale stadio è? È a San Siro, all'Olimpico? Dov'è la prima? La prima è il 10 giugno, 10 e 11 giugno, questi sono previsti due concerti, sì. a San Siro. Bene. Poi il 15 saremo all'Olimpico a Roma. Eh beh, lì non posso mancare pure io all'Olimpico, finalmente. Vabbè, insomma, vedo vincere qualcuno. Posso. Mano nella mano con Cristian, li voglio Senti Robby, un attimo solo a te e a Cristian, perché abbiamo un piccolo collegamento con Capuano per lo sport, visto che si è conclusa la gara importantissima di Valentino Rossi, e questa è una domenica di flusso da questo punto di vista. Capuano, eccomi Pino, ciao. Che è successo? È successo che è andata male, nel senso che Valentino Rossi ha fatto quello che doveva, è arrivato quarto, ha fatto 21 sorpassi in 12 giri, esatto. Poi era troppo lontano dal podio, però grande orgoglio, grande dignità, davanti abbiamo assistito a qualcosa, poi l'analizzeremo, forse una mezza farsa. Ha vinto Lorenzo, secondo Marquez, che in 30 giri, pur avendo lo stesso passo, è finito lì a un paio di decimi. Sai quante volte ha provato a superare Lorenzo? Mai. Zero. Scusa, mi ho rovinato la battuta. Quindi ma... detto tutto. No, vabbè, però così rovinano veramente. Così è un po' troppo. Adesso grande, poi ne parleremo. Avremo grandi opinionisti. Comunque, Lorenzo, Marquez, Pedrosa. Alla fine Lorenzo vince il mondiale per 5 punti. Sì, ma ha vinto Rossi. Per tutti noi. Ma non perché siamo italiani e nazionalisti. Perché insomma non dovevano sporcarla così quest'ultima gara. Ma ne parlerete più approfonditamente dopo. So che poi farei delle altre finestre, visto che c'è Roma-Lazio. Io spero di sentirti il meno possibile. Sono a disposizione. No, ecco appunto, dottor Capuano, ti abbraccio ciao, forte, Pino. Grazie, ciao. E torniamo dall'amico Robby Facchinetti dopo queste belle date. Peccato per il nostro Valentino, sì. Come giustamente hai detto tu, è veramente un trattamento ingiusto. Beh, anche perché come ho scritto sul mio post, comunque rimarrà lui comunque il più grande, punto. No, assolutamente. Infatti, sì, perché poi all'ultimo diventa un po' una farsa. Non deve più dimostrare niente, fortunatamente per lui. Esatto, come voi, non dovete proprio più dimostrare niente. Però questa reunion è veramente una grandissima idea. È bello, quando ho avuto questo piccolo anticipo dall'amico Riccardo Foglia, adesso ne possiamo parlare tranquillamente, sono stato veramente felice, perché tanto siete amici, non avete mai smesso di esserlo. Ormai siete, da quant'è che siete insieme? Sono più di 40 anni ormai. Beh, insomma, Riccardo poi è arrivato 2 mesi dopo di me, nel 66, esatto. E con sono noi 50 anni, per cui parliamo di, è andato via 43 anni fa. Calcolando che tu c'hai 46 anni, tu ci avevi quando hai cominciato coi putu. Ero veramente una un pupo. Mio padre, diciamo la verità. Red c'aveva tutti i capelli biondi, lunghi, Dorazio non suonava la batteria. Ma oggi irriconoscibili. Irriconoscibili. Quasi. Dei signori. Ma dai, siete identici a voi stessi, siete uguali. Devo dire come giustamente stavi accennando tu, questa reunion sta provocando un effetto direi bellissimo, inimmaginabile, perché non pensavamo mai di fare ad esempio San Siro e esaurirlo in 10 giorni. Ma secondo me, Robby mio, dovete continuare e continuerete, assolutamente non potete fermarvi qui con 3 sold out. Ma come no? Adesso ce la fate per l'età, non ce la fate. Portati per Dorazio, ci sono i bagni, portateli tranquillamente. Ma perché? Vabbè, ne parleremo. Guarda, è stato una specie di giuramento che abbiamo fatto. Vabbè, sapessi quanti giuramenti ne mangi. Stessi che se fossimo riusciti a arrivare, avessimo avuto la fortuna miracolosa di arrivare a festeggiare il cinquantennale, lì noi dovevamo chiudere, che era già fino a 10 anni fa, devo dire, anche impensabile, ma anche fino a 2 anni fa, un anno fa. Ci stiamo ormai arrivando, perché mancano 2 mesi. E, sì, vabbè, ma non può finire e così. Allora, questo è un po' ed è giusto che la nostra storia, che è una storia comunque fortunatamente straordinaria, insomma, piena di tante, sì, tantissime cose belle, tantissimi traguardi straordinari, deve finire. E merita un gran finale con i botti. Il coraggio di uscire a testa alta da primi, esatto, da vincitori. Però io non lo giurare, perché si può uscire da vincitori anche dopo un'altra 6-7 date. Comunque, l'amico Christian ci dedicherà, tratta da ovviamente una delle canzoni bellissime, uno dei momenti di quel bellissimo regalo con le voci degli attori doppiatori che hanno fatto con queste parole di poesia. Che cosa leggi, Christian? Ma io in realtà in questo doppio CD recitavo una canzone intitolata Dall'altra parte, una canzone che mi piace tantissimo, e poi insomma, essendo stato anche l'ideatore di questo progetto, non mi andava di fare i pezzi di punta. Oggi però, visto che siamo qui, anche per chi magari non segue assiduamente i Pooh, ho portato un pezzo che tutti conoscono, che ha scritto appunto Robby nel 1990 e ha vinto Sanremo, intitolato Uomini Soli. Farò mezzo pezzo, E allora Robby, mani sul volante se stai guidando, fermati, perché adesso il mio amico Christian Jansante ci regalerà recitando ci provo. Uomini Soli, con tanto di sottofondo vero. Ci provo. Prego. Gli incontri dove la gente viaggia e va a telefonare, col dopobarba che sa di pioggia e la 24 ore, perduti nel corriere della sera, nel va e vieni di una cameriera. Ma perché ogni giorno viene sera? A volte un uomo è da solo perché ha in testa strani tarli, perché ha paura del sesso o per la smania di successo, per scrivere il romanzo che ha di dentro, perché la vita l'ha già messo al muro, o perché in un mondo falso è un uomo vero delle città e dell'immensità. Se è vero che ci sei e hai viaggiato più di noi, vediamo se si può imparare questa vita e magari un po' cambiarla prima che ci cambi lei. Vediamo se si può farci amare come siamo, senza violentarci più con nevrosi e gelosie. Perché questa vita stende, e chi è steso dorme o muore, oppure fa l'amore. Brividi! Brividi a Radio 24! Bellissima! Devo dire che è vero, Robby? No, ma dai, ma bello, è bello. Brutta. È riuscito anche stavolta a commuovermi. Mortacci lei, perché magari per radio è molto più elegante, Robby. No, veramente bravo Cristiano. Grazie, gli ho insegnato grazie, tutto maestro. Quello che sapevo, Robby, gli ho insegnato tutto quello che sapevo. Mi ha cresciuto 25 anni fa quando sono arrivato con la valigia di cartone, l'ho incontrato e ho detto dai, non ti preoccupare, adesso tu non adesso sai che cosa è arrivato, ti addomestico io. Lascia stare, Robby, noi ti ringraziamo di tutti, eh. Grazie a voi, ragazzi. Grazie, saluto il resto ciao. Della meravigliosa banda ciao, che tu sai quanto vi amo. Ciao, ciao Robby, un bacio. Beh, ragazzi, io mi ricordo di Pooh quando con la premiata ditta chiedemmo abbiamo fatto finta all'inizio di spettacolo di essere morti e c'era il TG1 con Cucuzza e dava la notizia. E i Pooh anche partecipavano a questo, anche Riccardo Cocciante. Cioè Riccardo Cocciante disse: mi dispiace, erano bravi. E lui gli disse: ma puoi dire qualcosa in più? Ah, è uscito il mio ultimo CD, se volete andarlo a comprare. Era tutto su questa formula qui. E i Pooh, la parte più lunga, hanno cominciato a dire: prima Dorazio ha cominciato a fare mi dispiace per Francesca, Dodi ha cominciato a fare mi dispiace per Tiziana, hanno parlato e fate noi che ce l'ha Pino e Roberto, non ce ne frega niente, volevamo parlare di loro, e lì dicono fra di loro tutti, ed è bellissimo. Allora ci salutiamo per un attimo, ricordatevi che Voice Anatomy è appena cominciata. Anatomy. E come promesso siamo tornati, sono le 14:59 minuti e 52 secondi qui Radio 24 in diretta dagli studi di Roma, e vicino a me ancora il grandissimo Christian Jansante. Poco fa abbiamo salutato Robby Facchinetti, alla mia destra invece un quartetto d'eccezioni, Baraun live, dei vocalist eccezionali. E che adesso, visto che lo show deve andare avanti, io direi un 30 secondi di Show Must Go On, orchestrato alla grande, declinato con le vostre voci. Vai! Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on. I suppose, come disse qualcuno. Grazie, che bella cosa. Allora Cristian, prima di continuare a parlare con te, facciamo parlare un paio di contributi della tua voce attaccati a due corpi eccezionali. Uno è Johnny Depp di Paura e Delirio a Las Vegas, e l'altro è il grande Ewan McGregor con l'indimenticato Trainspotting, che credo tornerà in una seconda versione nel numero 2. Avevamo due buste di erba, 75 palline di mescalina, 5 fogli di acido superpotente, una saliera mezza piena di cocaina, un'intera galassia multicolore di eccitanti, calmanti, scoppianti, esilaranti. E anche un litro di tequila, un litro di rum, una cassa di birra, mezzo litro di etere puro e due dozzine di fialette di popper. Non che per il viaggio ci servisse tutta quella roba, ma quando ti ritrovi invischiato in una seria raccolta di droghe, la tendenza è di spingerla più in là che puoi. La sola cosa che mi preoccupava veramente era l'etere. Al mondo non c'è nulla di più indifeso, irresponsabile e depravato di un uomo negli abissi di una sbornia di etere. E io sapevo che ci saremmo arrivati abbastanza presto. La verità è che sono cattivo. Ma questo cambierà. Io cambierò. È l'ultima volta che faccio cose come questa. Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita. Già adesso non vedo l'ora. Diventerò esattamente come voi. Il lavoro, la famiglia, il maxi televisore del cazzo, la lavatrice, la macchina, il CD e l'apriscatole elettrico. Buona salute, colesterolo basso, polizza vita, mutuo, prima casa, moda casual, valigie, salotto di tre pezzi, fai da te, telequizze, schifezze nella pancia, figli, a spasso nel parco, orario d'ufficio, bravo a golf, l'auto lavata, tanti maglioni, Natale in famiglia, pensione privata, esenzione fiscale, tirando avanti, lontano dai guai, in attesa del giorno in cui morirai. Yeah, che bello! Madonna, ero un bambino, ma lo sai, sentito? Ma sai con te Trainspotting 1996, 20 anni. 20 anni fa, tu ce n'hai 31, per cui insomma, dai, calcolando questo ed ero già un drogato. Ma lui si è presentato così. No, invece questa cosa io la voglio dire, perché siccome c'ho anche questo aspetto, no, così insomma, sì, la gente non lo vede poco, radio, però magari. Non però mi vedono magari su YouTube robe. Tu sai che io sono una delle interviste più scaricate, perché ho dato giù scaricate nel senso scaricate via. No, scaricate per vedere. Ah, per vedere. Allora, siccome e sto malissimo, cioè diceva allora questo da figurate. Io mi sono fatto due canne a 16 anni, la seconda mi ha detto malissimo. Non ti puoi presentare come presidente degli Stati Uniti, no, sai. Vabbè, però di tachicardia parla. E da allora mai più sfiorato nulla, è stato più l'alcol forse, sì, che mi ha fatto fare delle cazzate. Si può dire alcol. Allora, dicevo, eppure vedi, ho fatto i più grandi drogati degli ultimi 25 anni di cinematografia. Ci sarà un motivo, infatti io ti volevo fare proprio questa domanda, che proprio è che sono un grande attore, questo è il motivo. Nel mondo del doppiaggio, se doppi con successo un personaggio romantico o folle, rischi di farlo sempre, più e più volte. Ritieni che questo atteggiamento sia dovuto alla peculiarità insita in una voce, altresì in un'abitudine, una pigrizia magari dei nostri direttori di doppiaggio? Un po' è una pigrizia, un po' è la certezza che lo farai bene, cioè semplicemente quando non puoi perdere tempo, no? Cioè, vabbè, ha fatto un drogato bene, farà pure un altro, capito? Dipende che droghe usa però quel film, sa, cocaina c'è un tipo di voce, l'eroina c'è un'altra più leggera, non so, un po', capito? Cioè, più leggera. Sì, sì. La cocaina invece è un'altra cosa, la follia. Io sono forse più da cocaina. Tu sei ma io pazzo. Io però l'autoproduco, perché sì, ti giuro su Dio. Io quando vedevo roba di cocaina di gente anche che vicino a me magari tirava fuori, no, fermati, ma proprio il terrore, non perché voglio fare il puritano, perché la paura che mi possa scoppiare il cervello, perché già sono abbastanza adrenalino. Uno come te, se si fa una cosa del genere l'arrestano su Saturno per vagabondaggio, perché è una cosa terrificante. Un giorno quando morirà lontano nel 2112, loro lo squaglieranno, non lo cremeranno e lo venderanno al grammo, il signor Ghianzante. Noi ci faremo i soldi così, io Ghianzante, io morirò dopo sicuramente. Ma tu non morirai mai. Mai, mai. Secondo me mai. No, anche cioè, secondo me, pensa, io ho sta convinzione. Senti, il fatto che tu hai doppiato poi dei grandi attori, a prescindere da questi fatti che siano anche estremi, Shakespeare non era così, come Bradley Cooper non era così. Beh, anche se, film, anche se non era, noi eravamo Shakespeare tranquillo. Però, no, però ho capito, non è che si facesse magari una foglia d'acanto si sarà fatto. Hai prestato la voce proprio, come dicevo, Bradley Cooper nel lato positivo, Fiennes, Shem, Matt Damon, straordinario in Will Hunting, e poi Christian Slater, Fassbender. Però mi voglio soffermare sul bellissimo lavoro che hai fatto in Blackout, un film piccolo magari, sconosciuto, di Abel Ferrara, insomma, dove Matthew Modine. Qualcuno ti ha rivelato che io ho sempre dichiarato che il film che mi è rimasto nel cuore. Beh certo, quando fai un'intervista c'hai degli autori che si occupano della persona che viene qui. Io non ci avrei mai pensato, se non fosse stato per Alessia Navarro e il signor Damiano Betti. Mi sembrava una strada coincidenza. Io avrei chiesto qualcos'altro. Loro mi hanno detto no, domandagli questo perché lui è pazzo di questo film. E io te lo domando. Sono pazzo questo film. E ti spiego perché. Perché è il classico film dove il personaggio fa tantissime cose, ha tantissime sfaccettature, ed è, lo dico presuntuosamente, è l'unico film dove alla fine ho detto bah. Perché? Perché era molto difficile, perché era un ruolo complicato, devo dire che Francesco Vairano, che mi ha diretto, è stato come al solito molto bravo. Un Matthew Modine tipo Verdi. Io alla fine gli ho detto, senti, ma Francesco, ma siamo sicuri? Io vorrei risentire, fidati di me. E infatti poi quando abbiamo rivisto il film, insomma, eravamo tutti soddisfatti, e ripeto, è forse l'unico film che mi è davvero rimasto nel cuore. Tu dirai, ma perché gli altri no? Non lo so, perché ci sta. Ed è un piccolo film, pensa che io ce l'ho in versione VHS, che all'epoca non c'erano i DVD. Mm-hmm. Ho cercato di trovarlo in DVD, non esiste. L'hai trasportato da VHS in DVD? Si può fare questo? Si può fare, però io sono un po', io sono ancora analogico, amico. Anch'io mio. Sono analogico, però quel VHS fra un po' farà capito? Si trascinerà la voce, anche perché noi abbiamo anche una sfortuna: quando si passa dal cinema al teatrico, come si dice, al VHS o al DVD, è un'altra velocità, cioè dai 24 fotogrammi al secondo del cinema si passa ai 25 fotogrammi al secondo su un DVD, e quindi va più veloce, per cui la voce non è mai la stessa, il film dura sempre di meno, per cui se tu parli così, lo dico anche agli amici, però si alza quasi di un'ottava la voce, ed è un peccato perché sembri un Paperino ogni tanto, cioè ti risenti lì e non ti convince come nel film. Però questo film a te l'ho amato particolarmente. Tantissimo. Se non fosse stato che gli autori si informavano segretamente nei meandri della tua vita. Non l'hai visto tu Black Eyed? C'era anche un Dennis Hopper notevole. Lo so, però Matthew Modine io l'ho conosciuto e l'ho visto in quel film straordinario di Alan Parker, il primo film che è stato lanciato, che ha lanciato lui e Nicolas Cage, che era Birdie, che è un film che io consiglio di rivedere. E allora, amico mio, un'altra cosa che voglio domandarti, so che qui accenderò la... Ah, c'è un messaggio, ce ne sono tanti, ma questo, ciao Piero, complimenti, va bene. Saluto anche il grande Ian Sante, di cui adoro la grande spontaneità e a cui vorrei, questo posso sottolinearlo anch'io, finora però non siamo passibili di denuncia, a cui vorrei porre una domanda. Ho visto che ci saranno degli incontri dedicati al doppiaggio all'Università di Salerno. Questi incontri saranno svolti in futuro anche in qualche università di Napoli? Un saluto da Alessandro. Non lo so, io sono stato invitato in questa università proprio l'altra settimana, dove per 3 ore insomma ho raccontato il doppiaggio, l'abbiamo anche poi fatto vedere, nel senso che c'era un'attrezzatura adeguata per fare anche delle prove eccetera. Non so sinceramente se ci saranno altri, credo di sì, però c'è il progetto di questa università è di portare all'interno del loro DAMS anche l'arte del doppiaggio, della quale di solito non si parla mai. Comunque da un po' di tempo se ne comincia a parlare, perché l'altro anno abbiamo avuto la fortuna al Gran Premio Internazionale del Doppiaggio, che quest'anno ci risarà la 7ª edizione, credo il 17 dicembre, inviteremo anche le persone normali come sempre, che è un teatro importante e grande, dove il ministro della pubblica istruzione, che interverrà su questi microfoni per parlare di queste cose, del teatro nelle scuole, dell'importanza della voce, dello studio della voce, delle corde vocali, della laringe, quindi studiamo un po' tutto. E ci ha dato anche la possibilità di entrare, l'università ci ha aperto le braccia, perché c'è stato un momento in cui il doppiaggio sembrava che dovesse essere demonizzato, per cui chi fa il doppiaggio non posso imparare l'inglese, il francese, il turco o lo spagnolo, non è il doppiaggio che blocca tutto questo, come i grandi libri di persone straniere vengono tradotti e letti in italiano, stessa cosa è il doppiaggio. Se fosse così semplice imparare una lingua, noi saremmo almeno bilingue, cioè l'inglese che lo sento a 25 anni in cuffia avrei dovuto impararlo benissimo, esatto. Invece se esco dal confine sono una capra e non so comunicare con nessuno. Perché come ti poni rispetto alle critiche di questi signori che demonizzano il doppiaggio? Guarda, io tanto lo dico onestamente. Vai, allora, si è tirato sulle maniche della camicia. No, questa è una cosa che ci tengo a precisare. Allora, al di là di quello che scrivono alcuni, così io li definisco brufolosi, che non hanno niente da fare durante i pomeriggi e allora si mettono lì a pontificare di cose che non conoscono, io penso che la versione originale sia comunque sia, non dico migliore, sia più godibile, nel senso che c'è il sentimento dell'attore, ok? Certo. Per quanto quella vera, esatto, per quanto un doppiatore possa essere scritto in inglese, se lo sai l'inglese, leggitelo in inglese. Inoltre ti dico, per quanto un doppiatore possa essere bravo, mette il suo sentimento, ok? Magari che è anche più interessante di quello dell'originale, però l'originale rimane originale, cioè io voglio sentire l'attore. Il problema è che in questo paese la gente le lingue non le conoscono. Comunque si doppia in 186 paesi fra del mondo. Fra l'altro, allora succede che al cinema quando metti una roba sottotitolata sbiglietti 5-6 pezzi ogni volta e quindi poi non incassi abbastanza per pagare gli stipendi a quelli che ci lavorano. Infatti una volta uno dice, ma noi abbiamo il diritto di sentire l'origine. Guarda che oggi più che mai ce l'avete con DVD, il Blu-ray lo puoi fare tranquillamente, ma anche su Sky cambi lingua, certo. E no, ma al cinema, ho detto benissimo, allora mettetevi insieme 4-5 di questi maniaci dell'originale, aprite un bel multiplex, lo chiamate il multiplex del diritto. tutto e ci ficcate dentro soltanto le versioni originali. Quando a fine mese avete sbigliettato 42 biglietti, poi però dovete anche pagare gli stipendi rispetto, certo, a chi ci lavora dentro, perché la gente dimentica che questo è un, come dire, un settore che muove denaro, cioè il film ha un costo. Ragazzi, è come se Feltrinelli, Mondadori, eccetera, praticamente vendessero solo libri. Sì. Libri, che è successo di là, che qualcuno ha urlato? No, niente. Come vendessero solo libri originali in francese, Prévert solo in francese, García Lorca solo in spagnolo. Per carità, c'è chi sa la lingua e sa il turco, Hikmet, tutto lo leggi in turco. Io dico, però, se tu conosci la lingua, vai a vederti il film e sentitelo in lingua originale. Oltretutto bisognerebbe conoscere anche un po' gli slang, perché noi quanti film doppiamo che sono slengati e sono, anche, difficili, certo, sono difficili. Io mi ricordo American Sniper, per dire, no? Bradley, bellissimo, Cooper parlava un texano strettissimo, è come se in italiano l'attore recitasse in barese. Esatto, un esempio. Ma anche... come lo trovi? Purtroppo, ecco, diciamo che il limite del doppiaggio, ma è un limite invalicabile, è che è costretto a utilizzare quello che io chiamo italiano neutro, che deve andare bene da Bolzano a Messina, sporcarla comunque con un adattamento più sporco. Sì, ma è una modalità, però il suono deve essere italiano, perché, certo, tu capisci bene che un poliziotto americano con il ponte del Brooklyn dietro non può avere né l'accento napoletano né quello, certo, di Brescia né quello triestino, a meno che non è un italo-americano, capito, ma allora... Baretta uno in, sì, quanti anni o il grande Amendola su De Niro di... E questo sinceramente forse rende il doppiaggio o un minimo meno vero rispetto alla realtà, perché quando noi ci muoviamo per il paese, a seconda delle regioni, sentiamo le persone che hanno il suono della regione stessa. Che, no? Poi anche chi conosce l'inglese, è vero, come Fulmonti, era un cockney inglese impronunciabile, difficilissimo anche da capire per chi era madrelingua, per cui bisognava ridarlo un adattamento sporco, eccetera, eccetera. Ma comunque, questo è come. I giochi di parole, a volte ci sono dei giochi di parole che non funzionano, no? Se uno dice tirati il cavo, e che magari, che ne so, è un detto che in America fa ride, ma in Italia non vuol dire niente. Devi trovare ti ricordi quando il buon Tonino Accolla trovò la soluzione in Ciucciati il calzino, no? di Bart. Ma Ciucciati il calzino non lo dice in originale, no, cioè è una, no, cosa che è stata creata qui in Italia, perché in originale dice una roba che non, ma so, come la risata di non Murphy ridere. La risata di Murphy era più divertente quella di Tonino, c'era una risata sicuramente in faccia di Eddie Murphy, ma Tonino trovò anche quella situazione lì. L'esulto dall'altra parte deriva dal fatto che qui ovviamente si vive in una società multilaziale, ma la Roma credo che abbia segnato. Io devo continuare con grande energia e con grandi sorrisi comunque la mia trasmissione. Il gol era sicuramente in fuorigioco, ma andiamo avanti perché sono un gran professionista. Adesso tanto andiamo in pubblicità e fisicamente dovete cercare di fermarmi in qualche modo. Barahona, mi fate un jingle d'uscita di Voice Anatomy o un'altra cosa? 30 secondi? Sì. Vai. Facciamo, aspetta. Sì, deve trovare. Mi prende la sprovvista. Cosa, ecco, fai? Facciamo jingle. Ok. Okay. Il jingle in uscita. Vai. Voice Anatomy. Oh no. Voice Anatomy. Yeah. Voice Anatomy. Voice Anatomy. Voice Anatomy. A tra pochissimo, sempre con l'amico Cristian Ianzante e qui il Barahona, mi raccomando, Voice Anatomy è appena cominciata. Stufe, caldaie, termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presento. Voice Anatomy. Era sempre Cristian Ianzante, Voice Anatomy, e noi siamo ancora qui. E allora abbiamo parlato prima anche di serie importanti che tu hai doppiato, ne hai fatte tantissime, da Sherlock eccetera. Ce n'è una che è un grandissimo successo, che è Walking Dead, cioè, che è arrivata ormai alla quinta, alla sesta stagione. Alla sesta, io non so. Ahimè, alla sesta. Io mi sono fermata alla quarta, fino alla quarta non finiscono mai sti zombie, ma fino alla sesta non lo puoi dire perché... Non lo devi dire. Però ce ne sentiamo un pezzettino? Grazie, Alessandro. Credi davvero che se torni alla fattoria da solo, senza di me, senza... Voglio che tu stia zitto. Pensi davvero che gli altri crederanno a qualsiasi cazzata che gli propinerai? E questo è il bello, non è una cazzata. Ho visto che il prigioniero ti ha sparato. L'ho inseguito. E gli ho spezzato il collo. Non sarà facile. Ma Lori e Carl ti dimenticheranno. L'hanno già fatto una volta. Lo faranno di nuovo. Che ansia, ragazzi, che ansia. Allora, Questo era il grande, lui si chiama Andrew Lincoln se non sbaglio. Grande non me la sento, insomma. No, a me mi divertente. No, caro, è grande attore, dai. Però appunto. è divertente. Sì, è divertente. Sì. Ecco, zitto, non devi parlare male. Ma guarda che se ti sei salvato sul doppiaggio prima. No, io voglio dire una cosa. No, allora, per quale ragione un doppiatore che cerca di fare bene il suo lavoro, poi da spettatore non può dire quello che realmente pensa? Dillo, che me frega. Perché sei me tu. È un assurdo, cioè un po' come dire, è un violinista di Sanremo ama tutte le canzoni del festival semplicemente perché le suona. Vabbè, di quello che pensi. No, anche di Piero De Tassi. In realtà no. Vabbè. Come no? Vabbè, lì lasciamo stare. Allora, lì lasciamo stare. Allora, no, dico quello che penso. Una volta, ma anche in maniera un po' così scherzosa, in un'intervista disse: vabbè, insomma, io non la guardo anche perché sinceramente quando arrivano gli zombie viene da ridere. È successo un massacro. Pazzo, ti uccidono. Ma come si permette? Basta. Ma poi cose anche gravi, parolacce brutte che non posso ripetere. Capito? Sputi nel piatto dove mangi. Ho detto, guarda, veramente gli zoom mi fanno ridere. Allora ho detto, bene, se è così, allora adesso c'è un suppo il pane, capito? Per cui tu non li sopporti. No, in realtà ti dico, io per esempio l'altra settimana ho visto la puntata e... Oh, sarà che c'ho pure un'età. Io dopo mezz'ora sono addormentato. Cioè, lo trovo un po' lento come prodotto, ma più che altro perché non risponde a quello che è il mio genere. Ma poi non finiscono mai. Ma sai, del resto tu pensi, in un mondo dove ci sono soltanto zombie, cioè dopo 6 stagioni, dove vai? Che fai? Che racconti solo che scappano dagli zombie. Esatto. Infatti io voglio vedere come va a finire e spero... Dio, che non sia che la una cura. No, che non sia la solita cosa. Era tutto un sogno. E io spero che Capuano mi dica questo. È vero, Capuano, è tutto un sogno quello che ho sentito prima? No, è un incubo. È un incubo, eh. Non posso farti arrabbiare. Dimmi. Ti dico che la Roma vince 1-0, sì, sì, gol sul calcio di rigore di Dzeko. Ah, e ti dico anche che ti dico anche no, non espulsione, ma ti dico anche che il fallo era molto probabilmente fuori dall'area di rigore. Ah. Un intervento di Gentiletti che è entrato un po' in ritardo su Dzeko, che era stato innescato da Salah. Dzeko è andato a terra, quindi fallo c'era. Però onestamente, rivedendo il replay, fallo che pare posizionato fuori dall'area di rigore, neanche sulla linea. La linea fa parte dell'area, sarebbe stato calcio di rigore. Sì. Credo se ne discuterà ma parecchio. Perché però ci sono 7 arbitri, è diventato prima è soltanto rispetto a una persona la decisione, mo sono in 6. Che dicono ognuno una cosa, ma dico ci fosse una decisione giusta. Vabbè, ma qui sto entrando nel personale e non è giusto. Va bene, questo lo analizzeremo più tardi tutti insieme. Però avvertimi da questo momento un po', Capuano, se tu vuoi, puoi entrare quando vuoi, come nel tutto calcio minuto per minuto. Ha appena segnato l'Empoli contro la Juventus. Con la Juventus. Insomma, anche questa è una notizia. Maccarone dal limite. Sì. Maccarone mi piace molto. Il fatto che abbia segnato Maccarone è anche lui un Highlander del calcio. Beh, sulla Juve non fa più tanta notizia, visto che sta insomma passando una stagione veramente fra alti e bassi, ma più che altro bassi, alti nella Champions League. Capuano, quando vuoi e come vuoi, siamo a tua disposizione. Appena aggiornamenti. Sì, ti prego, dammene almeno uno buono. Va bene, grazie. A dopo. A fra poco. Allora, nel frattempo c'era giunti in studio uno dei tanti provinanti fra virgolette che si sono esposti nella nostra voice box, nella nostra segreteria telefonica. Vi ricordo, se volete partecipare, all'828 12 12. Vi ricordo anche il numero per partecipare in diretta: 800 24 00 24. Gli sms 349 238 6666. Allora, questo signorino molto giovane al mio fianco e vicino soprattutto a Cristian Ianzante è Marco D'Angelo, che ha iniziato il tuo percorso presso la scuola di arti sceniche di Enrico Brignano nel 2010 e fonda il duo comico Poi Ve Lo Dico. Poi Ve Lo Dico perché è bello, è divertente. Buongiorno Pino, buongiorno a tutti. Poi Ve Lo Dico perché lasciamo sempre i punti sospensivi, non diamo mai una risposta definitiva, perlomeno al prossimo spettacolo tornano a vedere che ci abbiamo da raccontare. Oppure cioè, non tornano. Visto che il primo non avete detto niente, però invece credo che voi siate bravi. È un po' come The Walking Dead, sì. Come dicevamo prima di The Walking Dead. Vediamo dove andiamo a parare. Con il quale poi vinci il premio al Festival Nazionale della Comicità e il premio della critica come singolo. Esatto. Bene. Che provino hai fatto per segreteria telefonica? Il monologo finale tratto dal film La leggenda del pianista sull'oceano. Una cosetta. Una cosa così. E adesso adesso che cosa ci regali? Riporto quello lì, ve lo volevo far ascoltare perché è un monologo che porto nel cuore ormai da tempo. Va bene, allora noi ci facciamo in tempo perché sì. E allora, ti prego, musica anche per te e vai. Tutta quella città non si riusciva a vederne la fine. La fine. Per cortesia si potrebbe vedere la fine. Era tutto molto bello su quella scaletta ed io ero grande con quel bel cappotto. Facevo il mio figurone. E non avevo dubbi che sarei sceso, beh, non c'era problema. Ma non è quello che vedi che mi fermò, Max. Ma è quello che non vedi. Puoi capirlo? Quello che non vedi. In tutta quella sterminata città c'era tutto. Tutto. Tranne la fine. Quello che non vidi è dove finiva tutto quello. La fine del mondo. Tu pensa a un pianoforte. I tasti iniziano, i tasti finiscono. Tu lo sai che sono 88 e su questo nessuno può fregarti. E su quegli 88 tasti la musica che puoi fare è infinita. Questo a me piace, in questo posso vivere. Ma se io salgo su quella scaletta e davanti a me si srotola una tastiera di milioni di tasti, milioni e miliardi di tasti che non finiscono mai, perché questa è la verità, che non finiscono mai. Beh, allora, se quella tastiera è infinita, allora non c'è musica che puoi suonare. E se seduto sul seggiolino sbagliato, quello è il pianoforte su cui ci suona Dio. Ma Cristo, ma le vedevi le strade? Solo le strade ce n'erano a migliaia. Ma come fate voi altri laggiù a sceglierne una? A scegliere una donna, una casa, una terra che sia la vostra, un paesaggio da guardare, un modo di morire. Ma non avete paura di finire in mille pezzi solo a pensarla, a quella immensità, a pensarla, a viverla? Io ci sono nato su questa nave e vedi, anche qui il mondo passava, ma non più di 2000 persone per volta. Suonavi la tua felicità su una tastiera che non era infinita. Io ho imparato a vivere in questo modo. La Terra è una nave troppo grande per me. È una donna troppo bella. È un paesaggio troppo grande. È un profumo troppo forte. È una musica che non so suonare. Non scenderò da questa nave. Al massimo, posso scendere dalla mia vita. Dai, eh? Niente male. Poi, siccome poi partiamo dal fatto di un attore comico, uno pensa, no? No, guarda, io ti dico, appena detto comico, non mi aspettavo. Forse è perché, allora, bisogna partire dall'aspettativa. Se esatto. L'aspettativa è bassa, tutto diventa eclatante. Però obiettivamente questo ragazzo è bravissimo. Ma tu l'hai fatto perché sai che io sono uno che di solito bastona, allora hai portato uno veramente bravo. No, io me lo dico sempre, per non farmi fare polemiche ai nostri colleghi, che devono essere seri, perché chi si propone, sì, ci sono venute delle persone che facevano altri mestieri, che volevano tentare di farsi sentire, anche solo per farsi sentire, incontrare i loro idoli, come è successo per Giupizzo, eccetera, eccetera. Lui, io so che è un attore comico anche molto divertente, anche a me mi ha preso in contropiede, anche perché, pensa, sono prevenuto io che sono quello che urla di più, scusate, l'attore comico, è quello che fatica di più per fare l'attore drammatico. Se fai il caratterista e parli in quella maniera, allora, vabbè, sei un attore comico, caratterista. Ma se sei un attore comico, vuol dire che conosci la realtà, la sai esagerare per far ridere le persone. E allora diventa più facile asciugare e fare una cosa drammaticamente alta. Io devo essere stato bravo. No, è stato bravissimo e sono anche un po' invidioso perché vi dico, c'è la semplicità che molti di noi, forse a partire da me, negli anni abbiamo perduto. Non era una solita cosa di intonazioni preconfezionate più o meno accettabili, era una verità autentica. Ripeto che molti di noi è Perdi strada facendo e risentirla così un po' come il mio Trainspotting di vent'anni fa, sì, mi fa tenerezza, ma nello stesso tempo ti dico, io ci proverei se fossi in te, perché veramente poi voce anche interessante, diversa, particolare, bravo, molto grazie bravo mille. Molto bravo, bene, grazie. Bene, poi anche se è un po' nasale, ma non è importante, io lo dico sempre, non è la bella voce che fa la bella, sono le belle intenzioni, no? Vabbè, quello, questa quella. È una cosa, cioè è un'idea tanto sbagliata quanto diffusa, quella che il nostro mestiere sia un mestiere di voce, no? Cioè la voce è la parte finale di un pensiero e di un'emozione che uno dovrebbe provare. Dico dovrebbe, perché poi a volte non ci mettono neanche troppo in condizione di stare lì a scavarci dentro, perché tu sai meglio di me che specialmente per certi prodotti non c'è tempo. E quindi invece per Walking Dead c'è stato tutto il tempo. Bene, allora resta qui, va bene, grazie Marco D'Angelo. Grazie mille. In bocca al lupo, puoi parlare più vicino al microfono, so che sono 6.000 persone in studio. Ancora però. Grazie mille, buon proseguimento e vi ringrazio per questa bellissima esperienza, grazie per l'opportunità. E vi ricordo anche per altri che vogliono vivere questa esperienza, 828 12 12, lasciate il vostro messaggio recitato e noi cercheremo di convocarvi i migliori. Prima di salutarvi è un altro momento pubblicitario, c'è Quante donne ha fatto innamorare chi sia Ianzante con la frase girati e guardami. Doppiando Richard Armitage in Nord e Sud, caro saluto da Cristina da Roma. Brady Cooper Radio, vi amo tutti. Bene, Barahona, rimanete qui. Siamo qua. Sì, anche voi non vi muovete, ci vediamo, sentiamo, scusate, ormai l'abitudine ogni tanto anche a farmi vedere, ma è meglio così. Ci sentiamo fra pochissimo, grazie. Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Oscar, ce l'ha con te questa? Ma no, ce l'ha con te. No, ce l'ha con te. Ma non è vero, dai. Allora, ce l'ha con tutti e due. Ah, sì, perché c'è una grande novità. Dal lunedì al venerdì alle 8:15 su Radio 24 c'è Attenti a Noi Due. Che poi siamo noi due, Oscar noi Giannino due. E Alessandro Milan. Non perdetevelo su Radio 24 dalle 8:15 lunedì e venerdì. Attenti a Noi Due. Ascoltaci anche in digitale sul DAB. Voice Anatomy. Eccolo, questa il grande Alessandro ha riaperto contestualizzando Trainspotting con la bellissima musica Underworld. Era a questo punto un'invettiva di Cristian Ianzante. Un'invettiva? Che devo dire? Un rap moderno, no, alla Cruciani. No, alla Cruciani, io non... Veramente devo dire qualcosa? No, smettete di lamentarvi e di dire che è sempre colpa degli altri. Quando vengono a volte i ragazzi e dicono no, perché cose, e allora quell'altro no, è sempre colpa nostra. Questo è il paese dell'altro, l'altro non paga le tasse, l'altro ruba, l'altro fa, e noi siamo sempre vittime. Allora in questo mestiere io mi sento di dire che tu hai detto una frase giusta una volta. Una volta sola l'hai detto. Hai detto in questo mestiere, questo è l'unico mestiere dove quando perdi un provino comunque lo vince uno bravo. Esatto, sì. E allora se non lavorate, non additate gli altri come colpevoli del vostro fallimento. E in questo lavoro in particolare, purtroppo, se si crea quello che noi in gergo tecnico chiamiamo lo scollamento, non ti chiamano, certo, o ti sostituiscono se l'hai fatto male. Noi doppiamo degli attori bravissimi, dobbiamo essere bravi tanto quanto loro, anche se non ci mettiamo la faccia, se non ci mettiamo il corpo, ma tanto quanto loro, quantomeno nel restituire quelle che sono le emozioni che loro hanno dato in presa diretta. Chi non ci riesce non lo potrà mai fare quel ruolo. Qualcuno dissentisce. Poi i discorsi delle famiglie e i doppiatori, perché i figli crescono nell'ambiente, usate scuse per la ragione del doppiaggio e per il nepotismo. Allora, si è firmato dopo. Qua allora, ci sono due figli noi siamo figli d'altri, non siamo figli d'arte. Bravo, allora vi posso bravo. Garantire che papà mio vetrinista e mamma casalinga, non so il papà di Cristian. Mio padre ha lavorato all'Enel. All'Enel, per cui lui ha acceso la luce ed è nato Cristian, per cui con grande energia. Beh, sei nato, sei figlio d'arte perché l'energia ce l'ha messa. Papà ha visto quello che faceva, allora vi dico, non è così. È ovvio che se tu hai un figlio, sei un medico chirurgo e tuo figlio ovviamente sarà destinato magari a seguire le orme del padre, o se soprattutto se è notaio, eccetera, eccetera. Ma in questo ambiente non c'è questo nepotismo. Ve lo posso garantire, ve lo dico io che sono entrato in questo ambiente in punta di piedi e ho dovuto navigare e impormi in qualche modo. Lo stesso Cristian non è che veniva da Roma Centro, veniva da lontano, dall'Abruzzo. No, non è che in Abruzzo... oltretutto vedi, allora è chiaro che un figlio nostro avrà delle chance certo. In più all'inizio, perché questa è mio figlio, però se poi non funziona arrivederci. E inoltre, vabbè, tu in questo sei stato forse più fortunato di me. Se un bambino non è un bambino di Roma prima dei 20-22 anni, ma chi ce lo porta a Roma a fare fare il turno di doppiaggio. Esatto. Quindi, insomma, manco la benzina. Esiste questo mestiere dai 23, 24, 25 anni per chi non è di Roma, e può continuare ad esistere, come è successo a me, per altri 25, speriamo ancora, se riesci a dare qualcosa di concreto. E un'altra cosa, a parte i complimenti che non li leggo, io voglio invece leggere sempre le cose che provocano qualcosa. Negative. Ma sì, perché ma sì, è giusto, come l'altra volta dice, ma uno mi ha detto che bella questa trasmissione, finalmente sentendo la voce mi viene voglia, accendo sempre l'aspirapolvere e faccio le pulizie. Tanto il rumore è lo stesso. Bellissimo. Ho letto e sono stato orgoglioso anche di questo. Un'altra cosa, a parte i complimenti, ogni volta il discorso in Italia non si parla inglese, basta mettere i sottotitoli in italiano. In molti paesi i film sono in inglese con sottotitoli, così si impara l'inglese. No, scusatemi. Ancora. Non è così. Ancora. Non è così. A scuola si impara l'inglese. A scuola, e poi i film non sono soltanto in lingua anglosassone. E poi ti ripeto, chiunque tu sia, non è per difendere il mio mestiere, io faccio l'attore, Christian fa l'attore. Bene, i film sono in tante lingue e non è quello che ti insegna l'inglese, va bene? E si doppia in tutto il mondo, addirittura in Cina, con 8 lingue diverse una dall'altra. Sono 186 paesi chiave dove si doppia, non si doppia soltanto nei paesi anglosassoni. E anglosassoni, cioè in Inghilterra e negli Stati Uniti, perché non lo sanno fare. Quando lo fanno sui cartoni animati noi siamo molto più bravi di loro, perché riusciamo a interpretarli. Loro invece recitano e poi costruiscono su di loro il cartone animato, con tanto di rispetto ovviamente a grandi attori che l'hanno fatto, americani. Per cui non è così, non è così. Anche in Francia esistono magari 2 sale in più con i sottotitoli rispetto a noi, ma si doppia. I spagnoli, i portoghesi, dappertutto, in Germania si doppia, ovunque. Ovunque, dovete capire questo, si segue meglio. Poi ti ripeto una traduzione, ma se tu sai l'inglese, un libro in inglese, leggitelo in inglese, ma devi farlo assolutamente. Allora, magari sarebbe bello, se fossi spagnolo, García Lorca alle 5 della tarde, io me lo leggo in spagnolo, Shakespeare me lo leggo in inglese se lo so, ma se non lo so, c'ho un libro che è tradotto. Io non credo che tu a casa leggi i libri in originale e te la prendi con chi traduce i libri, te la devi prendere con chi adatta quei libri male. Male, tu ti prendi a lui perché ha adattato il libro da schifo, cambiando la trama, cambiando i nomi per assecondare un suo piacere. Allora hai ragione. E anche qui esiste il doppiaggio, non è nient'altro che una traduzione che può essere fatta bene o fatta male, ma non è cattiva che ti impedisce di imparare una lingua. Quello anche assolutamente perché, no. Anche perché allora che bastano, che ne so, 5 anni di manga per imparare il giapponese. Esatto, perché non lasciati i manga in giapponese? Lasciati i manga in giapponese, no? Così impariamo. Manga per quello. Cavolo, va bene. Allora, Barahona, per amor di dire un attimo questa arrabbiatura, che dovete dire non è difendere un baluardo, un mestiere artigianale, no, qui stiamo difendendo il piacere di andare al cinema. I nostri genitori, soprattutto i miei, pensavano che Cary Grant fosse Gualtiero De Angelis e che faceva la voce anche di Kraft, Cose Buone dal Mondo, eccetera, o Amendola col Vernellone, ma il, era così. John Wayne, se lo senti in originale, ma magari non lo ascolti più tanto perché c'è Cigoli che gli ha dato uno spessore e una profondità, o il grande Peppino Rinaldi con Peter Sellers, oppure con Woody Allen e Lionello. Anche Woody Allen ha ringraziato Lionello perché grazie a lui l'ha veicolato in Europa e l'ha reso un attore migliore. Parole di Woody Allen, e ce l'ho registrate, anche il suo viso che le dice queste cose. Allora, prima di andare sui Barahona, un altro pezzo da vocalista straordinario, prima di passare alla vostra biografia, sentirei Capuano che ha qualcosa da raccontarci. Magari, come va Capuano? Dimmi. Ti racconto che in questo istante la Roma ha colpito il palo con Nainggolan. Va bene, attaccate un attimo sta linea. Io non ho capito. Sembra che goda la voce. Io studio, no, la voce, sapete che siamo degli esperti vocali. Sembrava che c'era un sottogodimento. Capuano, tu no, puoi dire di che squadra sei? No, non posso. No, sei neo, e non voglio. Non voglio. Mi fate ne sapere, va, Capuano, ne va della, no, ne va della nostra amicizia. Ne va della nostra salvezza. No, ma scherzi. È vero, no, no, è vero. Una volta vero. Barisoni fece l'errore di dire la squadra per cui non tifa. Insomma, ha una simpatia a Carlo Genta e abbiamo passato un paio di settimane pessime. È duro, è duro. Io pure lo nascondo palesemente, mi piacere. Io invece ho sempre il coraggio di dirlo. Mi appello ma al segreto professionale. Al quinto emendamento. E allora, a parte il palo della Roma, c'è stato anche qualcosa della c'è Lazio? C'è stata anche una traversa della Lazio. Filippo Anderson, 26esimo. No, ma te l'ho raccontato il palo perché è avvenuto mentre mi davi la linea. Quindi certo. l'abbiamo seguito in diretta. Roma che è sempre avanti 1-0. Ti confermo che non era calcio di rigore. Perché il falo di Gentiletti su Dzeko era all'esterno per una ventina allora, di centimetri. È stato Dzeko da questo punto è di vista. È stato Dzeko. Poi c'è stata una bella reazione della Lazio. Traversa di Filippo Anderson. un'altra grande occasione con salvataggio nei pressi della linea di un difensore, certo, della Roma. Poi ti ho raccontato del palo di Nainggolan. La Juventus invece ha ribaltato contro l'Empoli, vince 2-1, ci eravamo lasciati col gol di Maccarone, ha pareggiato Mandzukic e poi ha segnato un paio di minuti fa Evra, colpo di testa. Queste insomma sono le due partite più importanti del pomeriggio. Vorrei c'è anche qualcos'altro così, che si sta muovendo, sentirti però. Così questo ribaltamento vorrei ascoltarlo da te più tardi, va bene? A dopo. Ciao, grazie. Allora, Maraonna, che cosa ci regalate in diretta? Ho pensato un gospel, però Antonello Venditti, Grazie Roma, rivisitato. È una bellissima canzone. Uno deve essere onesto. Vabbè, facciamo un classico, dai, allora. Morning. Every morning, family morning. Yes, Lord. There's a world of trouble I see. Yes, Lord. Lies a losing gamble to me. Yes, Lord. Every morning, family morning. Yes, Lord. And I spend plenty of days and nights alone in my grief. Alone in my grief. But I pray, really and truly pray, somebody will come to bring me relief. Pomeriggio qui con i Baraona. Dobbiamo farvi una rivelazione. Non sono loro che cantano, siamo io e Ian Sante che facciamo le quattro voci. Ma sempre veramente un disco. È pazzesco, uno deve dire, devi farli sentire così, cioè, perché io li guardo e poi stanno in play. Manca teatro, io gli dico sbagliate, perché la gente pensa che è registrata sta cosa. Allora, siamo arrivati alla fine anche di questo blocco. Voglio salutare con tutte le parole del mondo più belle che conosco Cristian Ianzante, la sua grande professionalità, la sua grande spontaneità, come ha detto qualcuno. Una mia amica mi ha detto che Atene non si doppia, ma è pazzesco, forse non hanno i fondi. Siete straordinari. Va bene, io comunque grazie a voi continuerò ad assillarvi ogni ora con GR24, il sole 24. Ogni ora per 24 ore al giorno da 10 anni. Grazie a Cristian Ianzante, noi ci sentiamo tra poco. Ciao. Con Voice Anatomy. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta Voice Anatomy. Eccoci di ritorno in studio, 15:47 minuti e 8 secondi. Io leggo tutti i messaggi che arrivano e vi do anche la possibilità di partecipare in diretta a questo programma. Allora, in questo programma la cosa interessante non è che c'è un'autocelebrazione dei doppiatori, ma è una celebrazione di un'arte che è quella della voce. E se avete seguito, avete scaricato i podcast come molti di voi, ma molte decine di migliaia di voi hanno fatto e fanno settimana dopo settimana, vi accorgete che è un programma trasversale in tutti i meandri della voce, declinato in tutte le direzioni. Abbiamo avuto dei vocologi importantissimi, dei sociolinguisti, dei criminologi, dei cantanti, degli attori, dei doppiatori. Ovviamente si dà un po' più di spazio al doppiatore attore, perché nella fantasia di ognuno ascoltare a livello evocativo per radio una voce bella e importante che può aiutare anche in una giornata uggiosa a superarla ascoltando magari un po' di note positive. Avete sentito in studio, qui ci sono i Baraonna che fanno della voce non solo il loro mestiere ma un'arte vera e propria, visto come sono armonizzati e quant'è difficile, per cui non è un'autocelebrazione. E leggo anche, riferendomi a un altro signore che dice che non leggo i messaggi critici, io leggo soltanto i messaggi critici, ho evitato almeno una ventina di messaggi celebrativi, anche che amano quello che stiamo facendo. Invece do spazio solo e soprattutto ai messaggi critici. ma non vedo il motivo, perché è una trasmissione di servizio che sta raccontando un mondo finora misterioso, che è quello della voce, come quello del teatro. Abbiamo sentito anche Giorgio Albertazzi. Qui di audiocelebrazione c'è veramente poco, non ho detto mai niente, soprattutto di me, di quello che faccio. Si sa, qualcuno lo conosce, altri non lo conoscono. Io sono soltanto uno che vi sta prendendo per mano e vi sta accompagnando in un mondo misterioso come quello della voce, ma voce intesa a 360 gradi, ovviamente. E non leggo, per cui mi fa piacere, perché in effetti ormai nel mondo vale tutto e il contrario di tutto. E allora, a proposito di questo, abbiamo sentito dall'inizio della trasmissione questo straordinario gruppo di vocalist. Sono un quartetto vocale diventato famoso grazie alla partecipazione a un festival di Sanremo del 94, se non sbaglio, che con sì, i Giardini di Alhambra vinse il premio della critica e premio al miglior arrangiamento, no? Quando le cose sono importanti. Com'era i Giardini di Alhambra? Si può improvvisare al volo? Certo, facciamo un ritornellino. Vai. Ritornello. Soluzione non è chiudersi in sé, fuggire la realtà, solitudine se non capirai che il tuo domani è già. Eccola, questi erano i Giardini. La lacrimuccia questa, ci fa ricordare un momento molto bello. Anche perché voi siete rimasti i Caporale, la base dominante dall'inizio. Sì. Si sono alternate delle voci femminili. All'inizio erano tutte e quattro fratelli e sorelle, era della famiglia. La prima formazione eravamo tutti fratelli. Poi nel tempo, ma da molto tempo ormai, ci sono Eleonora e Daphne, che ormai sono Barahona a tutti gli effetti, e le sentiamo proprio parte del progetto. Sorelle, certo. Ma la cosa incredibile è che queste armonizzazioni sono veramente copiate. Io mi immagino, come vi ho detto una volta durante uno spettacolo, come mamma e papà vi chiamavano per andare a dormire, perché dobbiamo andare a dormire, non lo so bene. Cioè, com'è nata questa folle passione? Mamma e papà sono cantanti? Nostro papà è autore con noi di tanti brani originali di Barahona, perché noi siamo anche un anche gruppo questo cantatore. È nepotismo, allora, per qualcuno. No, nostro papà è un insegnante di latino italiano, di poesia italiana al liceo, e ha avuto sempre una passione per la musica. E nostra mamma, se le metti uno spartito di Chopin, te lo legge sul pianoforte a prima lettura. Hai quindi capito? Comunque è una passione. Però, insomma, poi insomma, maestra elementare, quindi esatto. Si occupava poi di tutt'altro. Anche le nostre colleghe hanno fatto le scuole elementari. Sono fermate lì. Io sono arrivata all'università. Devo dire. Ma come ti sei unita a questi due ignorantoni? Scusa. No, diciamo che Eleonora Tosto è figlia d'arte, tra l'altro. I suoi genitori sono attori. Lo dobbiamo dire. Poi mo arriva il messaggio, allora. Vedi? Fate fuori Eleonora Tosto. Ci sta sempre. Le persone che ti vogliono bene, che decidono chi sei prima di sapere chi sei veramente. È giusto. Noi, bene o male, lavoriamo tridimensionalmente. Quando appari, è giusto che poi tu accetti le critiche. Se sono critiche poi positive, ti fanno anche crescere, e questo ci fa piacere a tutti quanti. Voglio capire che cosa hanno da dire su di voi. Deve chiamare. E poi loro hanno partecipato veramente a collaborazioni importantissime, come Riccardo Cocciante, Mango, Renato Zero, Carosone, Renzo Arbore. Nel 95 partecipano all'album di Claudio Baglioni, Io sono qui. Poi tante altre collaborazioni live con Claudio Baglioni. Tante cose, tantissime. Anche diversi dischi con Claudio, una collaborazione. L'ultimo disco. Questo piccolo grande amore, che è l'acronimo QPGA. Esatto. Ho fatto Se guardi su, un brano con un nostro piccolo arrangiamento vocale, e poi tra l'altro c'era il grande Pino Daniele in questo pezzo. Un assolo di chitarra di Pino. Senti, quando è nato esattamente il gruppo? Prima del 94? Allora, il gruppo nasce proprio nel 93. Abbiamo fatto prima una partecipazione Rai con Pingitore, che è una nostra comune conoscenza. E come no? Era Saluti e Baci, proprio il nostro primo debutto televisivo. E poi abbiamo fatto Sanremo Giovani lo stesso anno, siamo entrati a Sanremo quello vero nel 94 e poi siamo andati avanti. Ora Sanremo Giovani, loro due ma i fratelli non abbiamo più l'età. No. Ma scusami, io l'ho fatto veramente che ero minorenne, quindi ma che dici? No, potevi fare, Vito, non dire cose che la radio te lo fa dire, ma poi io dico la verità, invece su loro due posso metterci la mano sul fuoco. Ma questa contaminazione raccontarne com'è nata. Voi siete ormai, avete fatto anche un bellissimo festival che era Voceania, mi ricordo. Sì, tra l'altro proprio si parla della radice, la parola Voceania, il continente della voce, quindi un festival molto azzeccato per questa trasmissione, per questo contesto. Tra l'altro ne faremo un'edizione adesso che partirà all'inizio del 2016, che prevede un contest dove partecipano da tutta Italia gruppi vocali e poi fanno una serata finale. Tra l'altro un'edizione c'eri anche tu, te lo sì, ricordi? Me lo ricordo. In giuria, e arrivò anche la lettera dei Cetra, dei, sì. Cioè, almeno di lei che era rimasta ancora Virgilio Savona e Lucia Mannucci. Quindi un grande momento, e continuiamo a portare avanti quel progetto. Spero che tu sarai nostro ospite anche quest'anno. Beh, sai come canto io da solo, mi armonizzo da solo. La cosa bella di questa trasmissione di oggi, che metterà poi a confronto, no, la cosa interessante, e continuo a ripetere, interessante di una trasmissione che narra della voce a 360 gradi. Fra poco avremo ancora una volta l'amico, il beatbox straordinario Rise, accompagnato, non ha bisogno di un accompagno, ma di un altro grande che è Shade, che saranno qui ai microfoni. Sarà un bello scontro tra i beatboxer e i nostri vocalist invece fra virgolette tradizionali, che poi di tradizione non c'è niente, c'è una tradizione vocale italiana di bel canto, loro invece sono una nuova tradizione, sono, diciamo, che l'analogico che incontra il digitale da questo punto di vista, ma rispettabilissime. Tra l'altro molte formazioni che partecipano a Voceania hanno proprio questa beatbox. Anonimi Armonisti, esatto. Tanti gruppi, sì, grandi gruppi che vengono. Ma è bello questo, la grande collaborazione proprio. Tra l'altro, a proposito del suono della voce, volevo dire che noi siamo quattro voci con quattro timbri diversi, ma poi alla fine diventiamo una voce unica. Cioè la particolarità del gruppo vocale è trovare una sintesi delle quattro voci con un suono comune. Che si chiama armonizzazione, no? Quando sì, si mettono, si armonizzano voci diverse, che però anche timbricamente è un suono che è la somma di quattro voci diverse. Mi fa sentire un tagosina. Sentiamo un pezzettino. Facciamo, allora, abbiamo fatto un omaggio a Mia Martini quest'anno. Facciamo un pezzo. Il testo è del grande Califano, musica di Baldan Bembo, e minuetto. Che bello. E vieni a casa mia quando vuoi, nelle notti più che mai, dormi qui, te ne vai, sono sempre fatti tuoi, tanto sai che quassù, male che ti vada avrai, tutto a me se ti andrà, per una notte sono tua, la notte a casa mia sono tua. Vabbè, dai, voglio continuare tutta la notte con voi. Signori, rimanete incollati, continuano i Paraonna, ci sarà l'amico Marco Masini, un'altra bella vociona meravigliosa. A tra poco con Voice Anatomy. Digital Radio Flash. Flash. Ciao, sono Emma. Ho sentito dire che la Digital Radio è multimediale, è vero? Certo, con le trasmissioni in digitale la radio acquista una nuova dimensione. Oltre all'audio in qualità perfetta, puoi ricevere sulla tua radio immagini, testi e video. Lo sapevi? E allora muoviti. Muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Il segnale orario vi è offerto da... Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Voice Anatomy. Voice Anatomy. Ciao Pino Pino il segno. Voice Anatomy. Voice Anatomy, Voice Anatomy, Voice Anatomy. Ecco, così date ragione a chi dice che è autocelebrativa. Ma l'hanno sporcare. Fatto per fare. Hai detto che dovevo sporcare. Esatto, ma con queste voci leggere, leggiadre, invece passiamo a una bella vociaccia, ma meravigliosa. Ma prima di ascoltare la sua viva voce, mi mandate un pezzetto delle cose che abbiamo registrato? Starai ferma lì, succederà da sé. Con noi in viaggio per l'Italia, la sua bellissima tournée, Marco Masini. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Che bello, hai sentito? Ma hai visto in studio, cioè hai sentito in studio i grandi Barahona che ci accompagnano in questo viaggio meraviglioso intorno alla voce. Speriamo di farti bella compagnia. Dove sei, Marco, in questo momento? In questo momento siamo in viaggio, stiamo tornando da Bari. Avevamo il concerto ieri sera a Bari. Era un po' di tempo che non tornavo in Puglia, sicché è stata anche un'emozione doppia. E adesso, in questo senso, dopo Bari, Marco? E poi abbiamo Genova domani, siamo al Teatro Politeama, mm-hmm. E poi continueremo a Cesena martedì 10, e poi Milano il 16 e Lugano il 17. Poi verremo a Roma il 26, ma prima c'è Firenze il 20 di novembre. Beh, sta continuando e abbiamo deciso di riprendere questo cronologia tour che è iniziato ad aprile, ci ha dato tanta soddisfazione, quindi abbiamo deciso di replicare in alcune città e poi invece di andare a toccare anche altre città che in primavera non avevamo ancora visitato. Anche Marco canta da pochissimo, devo dire, no? Marco, tu la tua grande svolta è con il grande Giancarlo Bigazzi, che nomini spesso e volentieri, ma tutti noi e tutti i cantanti dovrebbero nominarlo quotidianamente, perché lui ha deciso di produrre il tuo grandissimo pezzo di Sanremo che vinci nella sezione giovani con Disperato, vero? Quello che ricordo hai di quel momento, Marco, dell'inizio, almeno dall'inizio al grande pubblico, ovviamente? Ma sì, erano momenti diversi, erano anni diversi, quindi un sistema di produzione completamente diverso rispetto a oggi. A quei tempi c'erano anche budget diversi, quindi si andava alla ricerca di giovani per costruire un percorso, e c'erano i famosi produttori che in qualche maniera svezzavano il giovane, gli insegnavano come costruirsi anche una carriera, come potersi autoprodurre, come realizzare una canzone, come tagliarla, come arrangiarla, un produttore che in qualche maniera formava. E poi questa voce che tu hai, che è particolare, bella, intensa, un po' questa tradizione soul nera come il grande Fausto Leali, da quel punto di vista questa voce grattata ma intensa, ha influito tanto questa tua peculiare caratteristica nella tua carriera, immagino, visto che parliamo di voce in questo programma? Ma perché molto probabilmente sì, perché in quegli anni io rappresentavo un disagio giovanile degli anni 90, di quelle generazioni smarrite, perse un po' nei vuoti della politica, nella paura. A quei tempi erano un po' duri credere qualcosa, soprattutto dopo Tangentopoli, quindi ci siamo sentiti un po' tutti smarriti. Io rappresentavo quel tipo di disperazione che poi negli anni ovviamente è cambiata. Può essere reiterata, Marco, può essere reiterata in Disperato 2 in questo periodo storico, che ci sta tutta. Non è che... Ma sai, forse da quel momento non è mai cambiato, non è cambiato più niente. No. Prima si reggeva meglio un equilibrio politico, anche perché forse si dava da bere meglio ai cittadini, si davano da bere certe cose in maniera migliore perché non c'era la comunicazione di oggi e quindi si scopriva meno. Quello che succede oggi ovviamente rende tutti un po' timorosi di quello che potremmo scoprire domani. Sì, perché adesso nei media praticamente tu apri, dici una cosa, per la strada te la ritrovi dappertutto, in tutti i modi, certe volte anche magari non nella versione migliore. Poi dopo 15 anni o 14 anni, perché era il 90, ti sei preso un'altra bellissima rivincita, vincendo con nel 2004 l'altro Festival di Sanremo, stavolta con nei big, nei grandi, con L'Uomo Volante, che io amo particolarmente, insieme a un'altra canzone che tu non mi fai mai, ma comunque io amo. Come non, non me la fai mai fotografia, mai, mai, non me la fai mai. Però riuscirò a strappartela perché ci sarà un raduno molto importante, non so se si può dire per radio, ma fallo dire. Sì, no, si può anche dire, no, no, ma questo è una cosa che noi facciamo spesso con i più, con quelli iscritti al fan club, i più tenaci, quindi ogni tanto ci ritroviamo e quest'anno avrò l'onore di essere coaudiovato e presentato dalla tua meravigliosa voce. E basta, il corpo non lo porto, ce Marco. Esatto. Ce l'hai veloce. No, non lo portare. Il no, corpo lascia. Hai capito com'è sta? Sia bella amicizia questa. Però ci sono poi quelle canzoni bellissime che sono proprio uno sfogo per chi vuole veramente mandare qualcuno da qualche parte. Ci sta tutta quanta. Sarebbe bella armonizzata da lì, dai Barona, mi fate un vaffanculo, c'è quella là, armonizzata, vi prego, un attimo, un quattro voci e dai, ci sta, dai. È una canzone per cui è sdoganata, si può fare, dai. Ci sta, vaffanculo, esatto, arriva, aspetta, si stanno mettendo d'accordo. Aspetta, ci sta? Sì. Ci sta. Si stanno dando le note per il vaffanculo. Ci sta. Adesso, per tutti quelli che trattano male la povera gente, per tutti quelli che prevaricano le buone intenzioni, per tutti quelli che chiudono le porte in faccia a chi invece si merita di averle aperte. Prego. Trifo, vaffanculo. Tiè, hai capito? No, così, tanto no, per. Scusaci, Marco, scusa. Ma non è dedicata. Ma non è per lui, ma no, che c'è? Per l'arrangiamento volante, così. Beh, proprio l'uomo volante, esatto, c'è un arrangiamento. Guarda, noi stiamo lavorando adesso su, veramente su un pezzo del grande Marco, che è praticamente Ci vorrebbe il mare, che è un pezzo che ci affascina tantissimo. Se un pezzetto. Prossima, no, prossimamente glielo facciamo sentire completo, perché è un pezzo casomai che amiamo tanto. Al raduno vi facciamo invitare. Marco, senti, non vogliamo. Io ti ringrazio, guarda, perché so che stai in giro e non mi va di strapparti. No, io ringrazio voi. Poi comunque, al di là di tutto, vorrei dire che il vaffanculo era una cosa degli anni 90. Esatto. No, sì. No, ma è una cosa seria quella che voglio dire. Ah, scusa. Che forse oggi ce ne vogliono meno di vaffanculi, nel senso, stiamo vivendo un momento che forse una voce più rassicurante, qualcuno sì, serve, che ci dia più fiducia invece di vedere comunque una rissa continua, un darsi l'uno con l'altro. È vero, credo che è oggi vero. Sia sarebbe più importante sentire venire fuori qualcuno che con la faccia, con la credibilità, con la sincerità, con la verità, dia una speranza, che potesse dare una speranza comunque a soprattutto ai giovani, sì. Perché quello che ci vuole è la fiducia, soprattutto da parte dei giovani verso un altro giovane, forse, ma un giovane vero, un giovane che non sempre gioventù vuol dire innovazione, l'innovazione oggi ci vorrebbe per davvero, a mio parere. Che bello, Marco, grazie, questa è grande maturità. Marco, ti abbracciamo forte, noi ci vediamo sicuramente per quella bellissima serata, se non anche al concerto a Roma il 26. Va grazie bene? A tutti. Buon viaggio e vai piano, mi raccomando. Ciao. Va bene, allora noi ci salutiamo ancora per pochissimo, torniamo fra poco con dei beatboxer. Niente, l'ho detto in un inglese orrendo, chiedo scusa a Shade e al mio all'altro amico, no, vi prego, mi vergogno, scusate, ciao Rise, a tra poco. Stufe, caldaie e termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Voice Anatomy. Prima di passare ai nostri amici beatboxer Shade e Rise, c'è una telefonata, un altro mi chiede: non avete mai detto cosa fa il direttore di doppiaggio? Il direttore di doppiaggio è proprio il regista, come di un film, è colui che decide come devono essere le intenzioni, i colori, è quello che ti dà lo stimolo, quello che ha visto il film più volte ed è quello che ci prende per mano e ci accompagna all'interno di un'interpretazione migliore. Pronto, Alessandra da Trento, dimmi rapidamente. Sì, Alessandra. Pronto, Pino. Sono ciao. Proprio felice di parlare col direttore del doppiaggio, perché grazie. Io vivo un'angoscia. Cosa? Nel senso che nei momenti, diciamo, culminanti di qualche film, quando c'è la protagonista femminile che deve fare la rivelazione che tu aspetti dall'inizio del film, mm-hmm. e dice rivela il segreto che ha tenuto nascosto tutta la vita e sì. per tutto il film, esatto. Arriva e è capace di ansimare, singhiozzare, piangere, sussurrare, ma non di farsi capire. E io solo dice: ma che televisore c'hai, Alessà? Dice: tutta la vita mi porto questo silenzio. Io da piccola. Ma Alessandra, credo che non sia colpa del doppiatore, ma dell'attore che in quel caso piange, urla e sospira. Il doppiatore poi deve far capire. Io spero che il tuo cinema sia un cinema. A Trento ci sono bei cinema, una bellissima città. E io comincerei a cambiare televisore intanto per capire che cosa accade. Però telefonata molto simpatica, credo che sia dovuto soprattutto al fatto dell'interpretazione. Mi dispiace vedere tutti questi film che poi non capisci come vanno a finire. Casomai mi telefoni a Radio 24 e io ti dirò come è andato realmente a finire quel film. Un abbraccio Alessandra, grazie. E allora andiamo con il contributo del nostro ospite beatboxer di Shade, vai! Il mio cuore un po' funziona, un po' no. Un interruttore sopra, on off. Purtroppo non mi regge la carica, mi si scarica peggio dell'iPhone. Prima eravamo sempre uno accanto all'altro, e ora sono così solo che mi scrivo da un account all'altro. E la felicità mi prende in giro, dura meno che in estate il lato freddo del cuscino. Hai ragione tu, è logico, sorriso falso emotico, per dirti che sto bene pure se mi viene il vomito. E non ti voglio trattenere perché questo. Allora, ovviamente il nostro amico Shade, a differenza di Rise, che comunque si completano a vicenda, è il nostro freestyler, il king del freestyler italiano, nel proprio un premio dell'MTV Spit del 2013, e l'ha ereditato dal concittadino Enzi. Lui è un rapper, attore, doppiatore, freestyler, stand-up comedian italiano. Nasce a Torino, si distingue appena sedicenne già nella battle di freestyle del panorama nazionale, vincendo per due volte, pensate, alla selezione piemontese delle tecniche perfette. Per caso, durante un evento presso le lavanderie, Ramone realizza con Enzi e Fred De Palma quello che ad oggi è il video di freestyle pensato italiano più visto della storia. Ma tante cose ha fatto, ce l'abbiamo in viva voce. Shade, come stai? Dove sei? Ciao Pino, tutto bene. Quanti anni hai, Shade, adesso? Ho 27 anni. Sei un anziano ormai. Sì, sono vecchio, sembro piccolo, ma in realtà... Mamma mia, fai tutto veramente, sei veramente completo, perché poi ti ho visto anche come stand-up comedian e non sei male per niente. A questo punto comincio ad essere invidioso. Ma no, faccio tutto male, in realtà. Beh, sì. Il segreto è questo, faccio tante cose ma nessuna bene. Le ultime cose che ti vedono impegnate, che cosa hai fatto adesso ultimamente? Sei stato il 1° maggio come ospite dell'amico Clementino all'Arena di Verona, al tour di MTV Spit e a quello dell'album VO5 dei Two Fine Girls, sì, con i quali stringono poi una grandissima amicizia. E poi a Zelig, insomma, per questo ti dico, non, sì, insomma, beh, queste 26 qui... anni sarei già stanco, insomma. No, vabbè. Sono stanco perché siamo in tour, ho fatto uscire un disco ad aprile, praticamente siamo ancora in tour tutte le settimane, sono stanchissimo, sempre gli stessi vestiti addosso, sono in condizioni pietose. Shade, non sei un rapper di quelli dell'entroterra americano, della West Coast, dove non si cambia. No, come avrai notato, sono un po' fuori dal canone del rapper che uno si immagina, però adesso sta andando molto bene. Ieri eravamo ad Arezzo, abbiamo fatto un live. La prossima settimana siamo a Milano, la prossima ancora siamo ad Alessandria. Insomma, stiamo girando l'Italia e siamo molto contenti. Poi so che questo titolo mi piace moltissimo, che Mirabilanzia. Mirabilanzia mi piace veramente tanto. Mi rispecchia. E poi quello rispetta un po' tutti i giovani in questo periodo. È un periodo Xanax dipendente, questo magari, da questo punto di vista. E poi c'è Mai una gioia, che è un'altra cosa che mi interessa a livello di sportivo. Purtroppo vivo questo titolo in maniera molto intensa. E poi sei anche uno dei protagonisti di South Park, questo cartone irriverente americano. Senti Shade, ma il freestyle, per le persone che ovviamente non conoscono, in cosa consiste la tecnica del freestyle? Ma guarda, il freestyle è una delle discipline del rap, quindi consiste nell'improvvisare delle rime. Ci sono diversi modi per fare freestyle: puoi avere un avversario contro cui rappare, puoi andare a tema libero, puoi fare freestyle con gli oggetti passati dal pubblico. Io lo faccio molto spesso agli eventi. Con gli oggetti? Sì, esatto. Il pubblico ti dà degli oggetti e ovviamente è molto d'impatto, perché si vede ancora di più il valore dell'improvvisazione. Ah certo, i Barauna, volete dare un oggetto a Shade per caso? Qui abbiamo questi vocali. Volete dare un oggetto? No, no, un pianoforte. Che cosa? Telefono. Ti va? Dai, va bene. Com'è? Vuoi la batteria sotto? Un beat, lo vuoi? Dai, mandatemi un beat. Mandate un beat a Shade. Ci sei? Sì. Entro oggi. Shade, vai. Vai, vai, compro il telefono nuovo, me lo merito. Tu sei così povero che non hai manco credito. Sai com'è, non ce n'è, non ci sei. La tua ragazza è più piatta del mio iPhone 6. Ma una rima so farla. E come l'iPhone 6 mi basta un dito per sbloccarla. Rime che ti faccio e te lo faccio anche stasera. E con un tasto poi ti blocco la tastiera. Ah, è una questione d'appartenenza. Ho sempre il telefono in mano, non giro mai senza. Ceppino in segno, che coincidenza. È così bravo, doppia la voce della mia coscienza. Yeah! Yeah! Bello, io sono invidioso. Questi sono i poeti, i poeti del ventunesimo secolo. Sì, addirittura. Ma no, ma è così, sai, ogni periodo ha la sua forma d'arte, e questo è rispettabilissimo. Non è facile, c'erano delle gare anche nell'antichità, non si chiamano certo, freestyler, certo. Ma erano i poeti di corte che si combattevano a suon di rime. Sì. Per cui, c'erano i poeti a braccio in Italia. Sì, anche più recentemente in Toscana, in Sardegna. Esatto. Fanno esatto. Sfide proprio. Per cui non è che parliamo. C'è la dall'altra parte che sono veramente dei beceri da quel punto di vista. Mi aggiornano sui risultati del derby. E, mi dispiace. E aspetta, c'è Capuano che mi dà sta brutta notizia. Capuano, dimmi. Te lo dimmi. Dico. Sì, 2-0 per la Roma. Sì, oh. Certo, 2-0 per la Lazio, la vedevo dura visto che era già una. Gervinio, contropiede, è scappato. Per forza, stiamo tentando di fare il pareggio. Palo. Sì, ma neanche tanto, neanche con convinzione, perché non è un gran secondo tempo della Lazio. Disastro proprio. Disastro. Va bene, io torno a casa col casco, fortunatamente ho la moto, per cui domani pagherò 10.000 colazioni. Capuano, mai una gioia come è l'album del mio amico Shade, no, mai una gioia. Se fa gol la Lazio, te lo faccio reppare se vuoi. Non accetto questa ironia. Attaccate il telefono in faccia a Capuano. A fra poco, grazie. Allora, Shade, siamo sempre qui con te e in Barahona. È bello, sarebbe un'unione freestyler e poesia armonizzata da parte grazie. Vostra. Sarebbe molto fico. Beh, potremmo farla. A voce Ania, in effetti, invitiamo i nostri amici Shade, Rise. Con grande piacere. Ci sarà questo contest il prossimo anno. Con una super serata finale, con tanti ospiti. E certo, e poi magari mi toccherà pure presentarlo, però sì. Senti, come ti sei avvicinato a questa forma d'arte? Perché di forma d'arte si parla, Shade. Guarda, essendo sincero, ti dico la verità. L'ho vista la prima volta nel film di Eminem, Eight Mile. Yeah. Lui lo faceva in inglese, io mi domandavo, ma cavolo, si potrà fare in italiano questa roba? Poi mi sono documentato, all'epoca internet si usava abbastanza poco, comunque era il 2003, non c'era Facebook, non c'erano questi siti social in cui ti puoi affacciare e sai già tutto, no? Quindi vedendo il film mi sono appassionato, ho scoperto che in Italia lo facevano in molti, c'era Neffa, c'era Fabri Fibra, insomma, quelli che poi hanno sbancato di lì a poco, insomma. E ho iniziato a farlo anch'io, così per gioco. Ma così nasce, io sono andato a teatro, ho amato quell'attore, ho capito che davano delle emozioni e cominci a fare un percorso e poi più ti addentri in quel percorso più ti accorgi quanto è difficile. Secondo te esiste una voce più adatta per il freestyle o è più importante il contenuto proprio del freestyler? Beh, sicuramente avere una timbrica forte aiuta, soprattutto quando lo fai dal vivo, perché tante volte, ti dico la verità, gli impianti non sono proprio di grande qualità. Quindi se ti fai capire bene, hai già fatto il 90% del lavoro. Come ti alleni durante il giorno? Cioè, ti alleni, perché uno si deve allenare con le parole per far nascere le rime, perché non è facile, insomma. Ti si allena, prendi il vocabolario e ogni giorno aggiungi una parola. Guarda, ho fatto anche questo. Ho fatto di tutto, guarda, fino ho fatto addirittura facevo delle battle contro dei miei amici in cui io interpretavo una pera e loro una mela. Poi io facevo il muro. L'importante era interpretarla la pera, insomma. Sì, vabbè. Certo. Ecco. E facevamo delle robe così, insomma, delle sorte di giochi di ruolo in freestyle, no? Quindi ci sono milioni di modi di allenarsi. Tua madre e tuo padre, per andare sempre contro quelli che dicono nepotisti, non sono freestyler, immagino. No, assolutamente. No, non lo sono. Assolutamente non c'è nepotismo in questo, perché mamma e papà ti parlavano in rima da bambino. No. E ora di andare a dormire, te l'ho detto, ti do 1.000 lire. No. Non lo so. Questo è il massimo della rima che posso fare. Potrei far scaturire delle litigate in freestyle con mia madre, che è molto brava. Che bello, gli rispondi per le rime, come esatto. Si dice. Shade, rimani lì in linea, noi andiamo un attimo in pubblicità e poi raccogliamo anche il nostro amico, già ospite nella prima puntata di Voice Anatomy, il grande Rise. A tra pochissimo con Voice Anatomy. Tutti i giorni alle 9, Mix 24, con i faccia a faccia, le inchieste, i gialli della storia di Giovanni Minoli. Dentro la notizia di Mario Secchi, Salamini di Pietrangelo Buttafuoco, la storia e la musica di Alessandra Fiori e Franco Schipani e tante novità per l'unico programma di Radiovisione. ascoltaci anche in digitale sul DAB. Voice Anatomy. Benvenuti signori ancora una volta a Voice Anatomy, qui in diretta 16:32 e 48 secondi. Dall'altra parte c'è Shade e ci sta raggiungendo anche, già c'è, l'amico Rise. Prima di passare la linea a loro abbiamo i Baraonna che ci regalano ancora 30 secondi di una bella armonizzazione. Sì, ti facciamo un bel mambo italiano, e classicissimo. Tra l'altro ti ricordiamo che è tratto dal nostro ultimo disco, che è Made in Italy, che potete trovare su tutte le piattaforme digitali, iTunes, Spotify e quindi... Tra l'altro è un disco dove ci sei anche tu, dai una zampata. Oddio mio! No, questo... Ma non in un pezzo qualunque. Personalissima versione di E luce van le stelle. Certo, io ho cominciato con la lirica. Vi prego. Anche noi. Mambo italiano. Mambo italiano. Mambo italiano. Mambo. Mambo italiano. Hey mambo. Mambo italiano. Hey mambo. Mambo italiano. Hey mambo. Mambo italiano. Hey mambo. Ladies and gentlemen, prima di passare la linea ai nostri amici, c'è tanti messaggi, ma questo è divertente, è interessante perché è filologicamente intenso. Sono molto attenti i nostri radioascoltatori. Viva Pino, viva Cristian. L'invidia e l'ignoranza, non conoscenza, fra parentesi, vi hanno fatto inquietare. Avete messo tanto calore nello spiegare il vostro lavoro che sembrava sentire un trailer. Splendidi. Già nel 1941 i doppiatori avevano i maggiori riconoscimenti per questa arte. Ho tre volumi rilegati della rivista Primi Piani del 41, del 42 e del 43. Maria Laura da Roma. Allora, l'ho letto perché era, non perché era complimento, ma perché insomma, hai capito, si fonda nella storia. Sì, ma questa è proprio la storia del doppiaggio. Shade, sei lì? Sì, sono ancora amico qui. Amico freestyle, ma vicino a te c'è un signore che si chiama Rise? Ciao, sì, Pino. È proprio ciao Rise, qui. Ben ritrovato e ben risentito. Questa è una coppiata che adesso ci farà venire i brividi come... i vocalist qui al mio fianco. Prima di sentire dalla tua viva voce, però voglio sentire un contributo sempre non di Shade ma dell'amico Rise dal vlog suo. Vai! È tutto voce, questo è proprio, insieme siete proprio l'esempio perfetto di come sia possibile fare musica solo attraverso l'utilizzo della voce. Ci fate sentire un esempio di come il beatbox incontra il freestyle e possono diventare una traccia completa? Direi di sì, assolutamente, è casa nostra. Senti che è già partito. Oh, stili spessi, primo io ti cade la faccia dai selfie. Tu cosa pensi? Sono così avanti che se doppio mentre rappo poi ti doppio in tutti i sensi. Ah, Shade l'hai capita, spacco col freestyle e spacco pure la partita. Tu l'hai già sentita. Sai che quando rappa Shade segna l'ultimo e la partita è finita. Quando arrivo e non ce n'è, tiro su la mano se ti piace questo rap. Te l'ho detto che ti chiudo la partita, il sole 24 ore, se tu mi sfidi hai 24 ore di vita. Yeah! Adesso improvvisate pure voi qui. No, loro devono armonizzare, devono fare. Senti, come vi siete conosciuti e com'è nata la vostra amicizia? Sai che non me lo ricordo come ci siamo conosciuti. Faccio una domanda di geografia adesso. Ma scusa. In realtà, lavorando quando nello... è successo? Quando è difficile, veramente difficile. Ci sono stati innumerevoli eventi. Uno di questi, il più importante, è l'Arena di Verona. Sì, che quello vi ha consolidato. Sì. Esatto, abbiamo fatto per quell'occasione un freestyle assieme davanti a tutto il pubblico dell'arena, che tra l'altro ma per il mio è uno dei palchi assolutamente più belli. Per me è il più bello della mia vita finora. Anche secondo me. Ma sarà così, ben credo per l'Arena di Verona sia difficile da superare. C'è una magia incredibile. Ma più che altro ci hanno detto avete 5 minuti da riempire. Io avevo paura che dopo un minuto la gente si rompesse le palle e mi iniziasse a tirare la frutta. Non tirare pezzi di marmo ti tira dall'aria. Esatto, pezzi d'arena. Invece no, dai, alla fine abbiamo spaccato, anzi ne volevano ancora quando poi siamo andati via, quindi è andata alla grande. Ma guarda, che la gente se riesce a interessarla con una novità, io credo che la gente riconosca poi la grande professionalità, che sia un'innovazione o no, io credo anche che nonna, se ascolta una cosa del genere, rimane affascinata, perché il freestyle, ripeto, si fonda proprio su antiche cose, cioè la guerra dei poeti in endecasillabi, eccetera, eccetera. Certo. C'era e adesso è diversa, è fatta in questo modo, ma non è meno interessante o meno artisticamente alta da questo punto di vista. I contenuti possono essere più belli o meno belli, ma quello dipende dalla bravura del freestyle. Certo. Il beatbox per me rimane un mistero della natura, mentre all'altro ci può essere uno studio, una spontaneità, una costruzione vocale di sinonimi e contrari, come il mio amico Bonolis, che riesce a avere per ogni parola 8 parole che gli assomigliano e che non sono quelle, che è straordinario. Va bene, ma il beatbox, cioè io l'ho detto anche la prima volta a Rise, non so cosa succede la prima volta quando ha detto la prima parola, che sta... Ma... Che ha detto? Mamma, come gliel'hai detto? Mamma. Come ti accennavo l'altra volta, quindi in realtà è solo una questione di allenamento. Cioè, anche io quando sento Shade far freestyle, cioè, se vuoi prova a fare due rime, ci sto qua un quarto d'ora a cercarne una. Secondo me è una questione di allenamento. Ma il beatbox forse sembra un po' più inavvicinabile perché non si è abituati con la bocca a fare musica, ma più a parlare, a cantare. Però è solamente una questione di allenamento. C'è qualcuno che non è allenato neanche a parlare, guarda, per cui purtroppo, me compreso, per carità di Dio. Però è difficile perché poi devi... Quanti suoni si possono tirar fuori dalla bocca? Sveliamo questo mistero. In realtà... I suoni contemporaneamente possono essere due, al massimo tre, perché si mischia la voce con i suoni che fai. Mi fai un piccolo esempio quando lo dici, perché la gente poi magari... fammi un suono, uno. Si può mischiare il basso con... e la batteria con... insieme... ma tu ti rendi conto che questa è una malattia, non è... C'è un esempio molto, molto carino, che è tipo il Padrino, che ha una batteria che fa con insieme. Noi anche ci piace, mi piace. E allora tu porti questa cosa a Don Fanucci e non ci dice nemmeno Padrino. Bellissimo. Non mi piace. È il miglior Padrino che abbia mai fatto. È così, perché io ho avuto la fortuna di ridoppiare Robert De Niro nel Padrino e la gioia di aver potuto di dire incredibile. Gli fece una proposta la quale non può già rifiutare. Mi è piaciuto tanto, è la cosa più cattiva che puoi dire una persona. Posso emozionarmi un po'? Ma no, ma mi emoziono io, perché tu hai fatto questo esempio, la gente è rimasta all'oscuro più di prima, perché tu sembrano tre bocche che suonano all'unisono. Tu hai detto hai fatto soltanto due suoni, non so due suoni. In realtà sono tanti suoni ripetuti uno dopo l'altro, però insieme. Da dove si comincia? Se tu devi insegnare a un beatbox, a un ragazzo, a me, ai Barahona, che loro fanno quattro armonizzazioni, ma sono quattro voci che si incontrano su delle ottave diverse, magari, eccetera. Ma secondo me, se dovessi insegnarlo, a parte che secondo me è una di quelle cose appunto che devi imparare da solo, devi avercelo un po' dentro, devi avere la voglia. Senza voglia ovviamente non si può fare nulla nella vita. Però i primi suoni sono i suoni della batteria, che sono i suoni principali del beatbox, come il kick, che è la cassa, e lo snare. La cassa è una P muta, un esatto, e il rullante è un PF, è una P muta spingendo l'aria fuori. Esatto, quando chiami qualcuno fai... Senti, esatto, è quello lì, esatto, è lui. Senti, esistono, ovviamente si sa, io lo faccio la domanda perché i campionati di beatbox, esistono anche i campionati di freestyle. Come si svolgono i freestyle? C'è proprio una sfida? Sono battle vere e proprie oppure sono esibizioni? Allora, ci sono battle a livello mondiale e si svolgono come... sono molto simili a quelli di freestyle, di improvvisazione delle rime. C'è una giuria e ci si sfida a colpi di beatbox. Quindi chi fa le tecniche più difficili, i suoni più particolari, in teoria vince la battaglia. Ma Rise è il più bravo. Ci sono delle scuole per queste cose, a prescindere da me che vi ho chiesto un piccolo tutorial. Esistono? Voi fate anche lezioni a qualcuno che si avvicina oppure no? No, esistono dei maestri che possono darle? Allora, esistono, spesso ci sono degli eventi, no, spesso è la parola sbagliata, ogni tanto ci sono, si possono creare degli eventi dove davanti a un pubblico esponi l'arte del beatbox, quindi la racconti e provi a spiegare alle persone dove come possiamo sentirvi, caro Lise, caro Shade. Cosa succederà fra poi i prossimi futuri degli impegni live? Ci sono in giro dove c'è la possibilità di allora, venirvi? Allora, sulle nostre pagine, sicuramente, esatto, parlo per entrambe, su pagine Facebook, Twitter, Instagram, tutti i possibili social immaginabili. Immagino, voi siete veramente figli del futuro per questo, io sono un po' analogico in questo. Per sì, cui... non so cosa sia, quale sia meglio come cosa. Sì, infatti. No, siamo un incrocio fra questi due mondi credo che sia la cosa migliore, esatto, sempre la cosa migliore. Non esatto. Solo al digitale, non solo analogico, come i microfoni analogici di una volta erano straordinari, erano valvolari e ti permettevano veramente la voce di coglierla dai capelli fino alla punta dei piedi. Quel calore. Adesso col transistor magari sì, viene pulita, ma viene tagliato come il CD o un buon vinile. È sempre meglio ascoltare un buon vinile, no, che un CD, perché sì, è troppo freddo certe volte. Certo. Proprio vi invito a fare una prova mettendo un disco classico come The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd, prima in CD e poi in vinile, per ascoltare la profondità di campo che hanno. Dell'MP3 non parliamo nemmeno. No, esatto, le vogliamo troppo schiacciato. Ma anche nel doppiaggio, poi tutti i vari campi, tante cose che oggi non si fanno praticamente più. Bravo, i campi sono quando uno si deve allontanare, quando l'attore ovviamente parla da lontano, tutti allontani dal microfono. Ma ringraziando Dio abbiamo dei tecnici del suono veramente in gamma, che lì siamo i migliori al mondo. Siamo anche lì i migliori al mondo. Progetti futuri insieme, c'è l'album di Shade che è mai una gioia. Va bene, che ci ascoltiamo anche un estratto da quello. Ci siete tutte e due su questo album? Lo dico, no, allora, c'è solo Shade. Ci sono solo io. Il mio album, il nome dell'album è Mirabilancia, ma è una gioia, è il singolo, gioia il singolo di punta, diciamo. Sto lavorando già al disco nuovo che vedrà luce a inizio 2016. Incrociamo le dita. Voglio fare un pezzo, ti prego. Ma guarda, domani facciamo. Ma pure dopo domani, quando vuoi, il mio numero ce l'avete, io voglio partecipare e vantarmi dentro con lui che mi fa del beatbox, tu mi fai da freestyle, io ho una stupidaggine dentro. Sto per tatuarmi la tua faccia sulla faccia. Sì, lo faccio, giuro, lo faccio, è gratuito, mi date uno spessore enorme, posso andare sui social anch'io. Saremo onorati, veramente. No, ma non è una promessa radiofonica vera, lo giuro, sono a disposizione, poi il nostro comune contatto vi darà modo di contattarmi fisicamente e vocalmente quotidianamente, va bene? Fantastico. Ragazzi, grazie. Vi abbraccio e vi ringrazio come sempre per la vostra disponibilità. Salutarvi, ascoltiamo un pezzo di Mai una gioia. Un abbraccio caro a Shade e all'amico Rise. Ciao, grazie a voi. Ciao. Arrivo vestito elegante, ma la festa non è interessante. Ho la testa così pesante che se mi butto muore il passante. E se mi lancio dal passante ferroviario, non muoio perché il treno non arriva mai in orario. Mi hai chiesto se fossi sicuro che sarebbe stato per sempre. Io ti ho risposto sicuro e poi sono sparito per sempre. Ho fatto di tutto mentre te li facevi tutti. E ti ricordi di me solo per tutti i miei buchi nell'acqua. Come Mosè, capitano tutte a me. Mai una gioia, ma c'è una gioia. Allora, signori, ci salutiamo per pochissimo, poi torniamo per l'ultimo blocco insieme anche per ascoltare i risultati. Bene, un abbraccio ancora a Rise e a Shade, e un po' di traffico e torniamo. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presento. Sanatomi. Bentornati all'ultimo momento insieme, anche questa domenica ricca di ospiti. Abbiamo veramente navigato dall'amico Cristian Ansante a Robby Facchinetti dei Pooh, a Marco Masini. Baronna ci hanno tenuto compagnia e ci stanno tenendo tuttora compagnia per l'intero arco della trasmissione. Il nostro provinante Marco D'Angelo, non voglio dimenticare nessuno, Shade e Rise. Adesso siamo all'ultimo momento insieme, leggo alcuni messaggi a parte i complimenti, che fa sempre piacere leggerli ovviamente. C'è anche la persona che dice: prima ti criticavo, adesso eccetera eccetera, bravo te, i tuoi beatbox magari fossero miei. C'è un'altra persona che invece voglio sottolineare, anche se non è la trasmissione, però si parla di voce, e lui dice giustamente che la voce, bellissima voce particolare di Pino Mango, scomparso la notte dell'8 dicembre, non ne parlano così tanto spesso, magari è capitato, non è capitato magari di ascoltare i momenti in cui hanno parlato del grande Pino Mango. La sua voce bellissima, straordinaria, ci ha accompagnato e mancherà, perché comunque era un punto stabile, sono quelle persone che poi te ne accorgi quando non ci sono più, eh? E allora noi lo ricordiamo con grande affetto, Pino Mango. Io spero che se ne parli. Voi sapete qualcosa del grande Mango? Io lo conosco benissimo perché ho lavorato con lui 5 anni come vocalist. E allora quindi... lo conosci meglio. Lo conosco benissimo. Lo conosci, è bello non usare l'imperfetto in questo. Lo conosco. Non sempre. Lo conoscevo, lo conosco. Questa è una cosa bella, perché va bene Enrico, spero di averti comunque ti averti accontentato un minimo ricordando il grande Pino. Allora io voglio salutare, ma degnamente, i Baraon. Allora hanno un brano sempre armonizzato come loro, sì, sanno fare, fatto che apposta. Si fa sempre fatto apposta, che fuite, no? Sì, fuite, che via, andiamo via, scappate, fuggite. Però vai, prima di dare, sì, la linea le cose tristi che deve dirmi Capuano, perché io voglio rimandarle il più possibile. Vorresti fuggire? Sì, da morire. Un brano di nostra composizione che ricorda un po' il sapore delle sì, vecchie cose napoletane. Anche perché poi c'è della provincia di Salerno. Noi siamo salernitani, sì, parte. Sì. Dapne, e no, noi siamo di Roma, noi siamo di Roma. Va bene, va bene. Siamo romani di adozione. Roma versus Napoli, yeah. Salerno, anzi. Salerno. Fuito. Fuito, vogliono fuito con marzatelle speciale. Fuito, muovere nel caso, muovere nel ca. Francese, spagnolo, brigante, sta povera gente non pote fa niente, si viene nel caso, muovere nel ca. Fuito, vogliono fuito con marzatelle speciale. Fuito, muovere nel ca, muovere nel ca. Francese, spagnolo, brigante, sa povera gente non può fare niente. Si viene nel ca, si viene nel ca. Per poi si sono messi a giocare, tu sai che non vanno a passare. Tu torni a casa, tu torni a casa, tu torni a casa, tu si può cantare, tu torni a casa, tu torni a casa, tu torni a casa, tu torni a casa, tu torni a casa, tu torni a casa, tu torni a casa, tu torni a casa, tu torni a casa, tu torni a casa, tu torni a casa, tu torni a casa, pensate che bello, insieme a Risi Asciate, un hip hop e rap, ma che bella cosa. Poi io vi guardo e ancora mi stupisco di tutto questo. Chi vi ascolta soltanto, come dice, dicono un paio di messaggi, cioè, incredibile, sembra veramente un disco registrato, invece no, sono live, assolutamente live. Baraona, grazie, grazie davvero. A voi, io grazie tanto, grazie. No, ma tanto ci rivediamo. Rimanete qui però in studio, mancano pochi minuti. Io vi ricordo qualsiasi comunicazione, abbiamo il nostro Facebook, ovviamente Voice Anatomy, il Voice Box, vi ricordo, per partecipare come attori o possibili tali alla nostra segreteria telefonica, che è l'828 12 12. I nostri podcast sono disponibili ovviamente sia sul sito di Radio 24 che nei siti appositi. Devo dire che per 2-3 settimane è stato anche il podcast più scaricato in Italia, e di questo vi ringrazio, perché ci dà tanta soddisfazione e la forza di anche andare avanti a trasportarvi in questo meraviglioso mondo della voce. Il Twitter ovviamente è @ Voice Anatomy. Va bene, allora io passo la linea, oddio, all'amico Capuano e a tutti i convocati. Eccoci. Che dovranno darmi i risultati, anche se è come se dessero adesso la risposta da analisi del sangue col colesterolo a 880. Dovrò fare qualcosa. Dimmi i risultati, Capuano. Guarda, la buona notizia è che le partite non sono ancora finite, siamo in tempo buona di recupero, e come sai, finché c'è vita c'è speranza. Beh, ma sono parecchi gol da recuperare. Allora, la Juventus vince 3-1 a Empoli, il terzo gol l'ha fatto Dybala con fuorigioco di Lichtsteiner. Poi il Sassuolo continua a vincere 1-0 col Carpi. Anche 2-2 tra Frosinone e Genoa, ha pareggiato Gappé per il Genoa. 1-0 del Palermo sul Chievo, questo è risultato importante perché Iachini, sì, si giocava la panchina. Gol di Gilardino. E poi c'è Roma-Lazio. Vabbè, ma salta 2-0. Dai, dai. Ancora 2-0 per la Roma. La Lazio non ha fatto nulla per la mia paura è che si sbilanciasse molto per poi prestare il fianco a Salah e a Gervinho, che mettono paura su quelle fasce, per cui mi aspettavo una situazione del genere, ma non ha tentato, si è affacciata in quell'area. No, c'è stato dopo qualcosa. Il 2-0 di Gervinho c'è stato un tentativo di reazione da parte della Lazio, si, sì, sono create anche un paio di situazioni un po' pericolose nell'area, vabbè, di rigore della Roma, però insomma niente di particolare, devo dire, è successo che cioè, sta maturando uno scarpino a uno, cose ampiamente, ampiamente sì. meritato. No, no, no, devo dirti la verità. Però c'è anche un'altra buona notizia: terza sconfitta consecutiva per la Lazio. Domenica prossima il campionato va in letargo. Ah, si ferma? C'è la sosta della nazionale. Sì, c'è la sosta della nazionale, quindi. Ci sarà tempo per riordinare le idee. Non è finita la qualificazione. Sì, ma ci sono le amichevoli. C'è una doppia amichevole, prima in Belgio e poi in casa Bologna contro la Romania. E quindi inizia la lunga preparazione all'europeo. Quindi settimana prossima il campionato si ferma. Tra l'altro il campionato che non è finito qui, questa domenica, perché alle 18 c'è il Napoli, stasera c'è Sampdoria e Fiorentina. Sono partite importanti, perché bisogna vedere chi si accoda o chi aggancia l'Inter per in vetta alla classifica. È vero che l'Inter anche ha vinto. Noi stiamo lì adesso risicati. Ma la panchina di Pioli scricchiola a questo punto? Non credo. No, non credo. Ho visto Lotito, insomma, non felice in tribuna, ma è ampiamente prevedibile. Ma quando l'hai visto sorridere in tribuna? È finita qui, intanto finita, anche quella piccola speranza che conservavi. No, sinceramente no. Io sono molto onesto da questo punto di vista, anche con i miei amici ovviamente della Roma, giocandoci caffè e quant'altro. Domani mi toccherà chiamare la Vazza a farmi sponsorizzare, perché mi sa che mi conviene. Ma io ho detto, se devo essere onesto e oggettivo, insomma, fra i due devi dare un risultato da straniero. Era un uno fisso da quel punto di vista, sperando in una X, sinceramente. Non pensavo che una Lazio vista ultimamente potesse fare qualcosa di più, perché anche contro il Rosenborg, insomma, una squadra di Serie C, secondo me il Rosenborg, insomma, ha vinto perché doveva assolutamente vincere. Però la difesa della Lazio, mi dispiace quel rigore che non c'era, che magari è stato il diapason. Sì, rigore che ha condizionato la partita, perché poi se tu dai campo e spazio alla Roma è evidente che crea una situazione favorevole per la Roma. Ti dico solo una cosa, poi ovviamente abbiamo 2 ore per parlarne, non so come la pensi tu, ma sentiremo un Valentino Rossi durissimo su quello che è successo oggi a Valencia. Ci sta, insomma, ci sta. Da ascoltare. Hanno rovinato tutto il circo del moto mondiale, è stato un po' rovinato. Io credo che doveva essere a favore di Valentino, perché lui ha detto smetto se vinco. Hanno detto non famo vincere, almeno non smette, sennò chi c'è guarda più. Poi lo sentiremo. Tra l'altro erano in 30.000 Tavuglia a sperare nel sogno. Tavuglia, il piccolo paese di Valentino Rossi, non si è concretizzato, ma guardate che passi, anche di questo se ne parlerà devo tagliare, mi fanno cenno di tagliare, caro Capuano, ti do la linea, ti abbraccio, vi abbraccio tutti, buona trasmissione a tutti i convocati. Grazie Alessandro, grazie Gaia, grazie Alessia, grazie Damiano, grazie Barona che sono sempre qui al mio fianco. Alla prossima domenica prossima alle 14.30 con Voice Anatomy.